puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sento poco, come mai? Stasera sento pochissimo. Parenzo, mi senti? Forte e chiaro, direttorissimo. Ho avuto un problema iniziale di collegamento. Succede. Lo sono, sai, in zona che Palazzo Grazioli, quindi. Sei a Palazzo Grazioli? Che stai facendo? Sono in zona, proprio in via, quasi davanti al palazzo, quindi può essere che i telefoni siano giustamente schermati. Ah, ecco. Per la sicurezza del nostro premier. Sai che la famiglia Casadei ci ha inviato questa canzone, che è un rifacimento da parte di Mirko Casadei della nota Non me moleste moschito che abbiamo mandato nei giorni scorsi. Beh, grande onore, eh? Beh, insomma, la Zanzara ormai programma cult e oltre. 800 24 00 24. Ma cosa c'è di più caldo? O forse di più pop di un pranzo a base di polenta e pagliata davanti a Montecitorio? Qualcuno si è arrabbiato, per esempio tutta l'opposizione, l'Italia dei Valori, una farsa offensiva. Leggo Veltroni: l'idea che in un paese che vive un momento così difficile tutto finisca in barzellette, battute e mangiate è la prova di una crisi molto profonda del rapporto tra politica e cittadini. No, però più che un pranzo, intanto era un picnic, perché sto gazebo lì in piedi, quindi una cosa veramente, un picnic in una tenda, una roba, vabbè, comunque. Però poi non si possono lamentare che noi giornalisti facciamo la politica spettacolo, quando i primi sono i politici che per ragioni di... C'è studio aperto che sta mandando in onda un servizio, sentiamo. Caldo per quella polenta, però era bella tosta. La coda non era male, però il rigatone soprattutto unificava. Com'erano i maccheroni? Buoni, molto buoni, gradevoli. Il suo piatto preferito è la polenta, vero? No. Mi dispiace, ma io solo piatti romani mangio e sono orgogliosa di essere romana. L'appartamento di Monte Carlo, il caso Tugliani. Abbiamo beccato al volo studio aperto su questo argomento. Bossi non ha rinunciato al suo linguaggio anche in questa occasione, in questa occasione di riconciliazione. E sentite con Alemanna a proposito della questione del Gran Premio. Via. Questo Gran Premio di Roma è diverso da quello di Monza, l'ho appoggiato. Il cazzo corri a Roma, il Gran Premio. Su questo ci verificheremo. L'importante, senza insulti e con la massima, diciamo così, rispetto reciproco. Beh, insomma, che dici? Che cazzo si corre? Non ha tutti i torti. Come si corre lì a Roma, al Colosseo, futtai i treni. Ha ragione, però, scusa. Già lo dicemmo, il povero Lupo Manno, perché io poi l'ho visto nel filmato del Corriere.it, sì. E era visibilmente imbarazzato quando dice: beh, no, insomma, senza parolacce, però risolveremo tutto. Sì, era molto imbarazzato, perché di fronte a Boss che dice: ma dove cazzo si corre a Roma? Senatura, dove si corre a Roma? A fottare i treni, il Colosseo. Un po' c'ha ragione, però. Bene, dove andiamo? A sentire una frase che mi ha colpito di domenica, al tuo In Onda, di Margherita Hack sulle barzellette di Berlusconi, perché Margherita Hack sembra, no, così... Con la testa tra gli astri? Sì, con la testa tra le stelle, le costellazioni... Però è lucidissima la prof, eh? Sì, no, soprattutto molto cattiva con Berlusconi, sentite. Lucida. Vabbè, lucida, via. Io mi domando, ma si guarda mai allo specchio? Questo nanetto, con capelli tinti, la faccia rifatta, e si permette d'offendere una degna persona come la Bindi, si dovrebbe vergognare. Astrofisica. Margherita Hack, che è stata nostra ospite qualche qualche giorno fa, come ricordate, in una splendida imitazione di Andrew Mercou, lo ricordo per chi ancora poteva pensare che era la vera Marguerite Hack. Sempre 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. E qualche voce dalla politica e soprattutto dalla televisione, la politica in televisione, perché c'è Antonio Di Pietro che, come sapete, sostiene di non essere mai in televisione, in realtà c'è sempre. Ieri sera a Ballarò non poteva mancare. A un certo punto parla della libertà d'opinione, non c'è libertà, nessuno può parlare, eccetera, la RAI occupata, cose ridicole, e sentite come si esprime a proposito della televisione di Stato. È vero o non è vero che non c'è pluralità nell'informazione? È vero o vero che la RAI si è minzolinata? Questo è il tema di fondo. Allora, questo hanno posto il problema. Su questo tema... La RAI minzolinata, questo non l'avevo mai sentito. Meraviglioso neologismo. La RAI si è tutta la RAI è come il TG1, secondo Di Pietro, che però è sempre presente in tutte le trasmissioni, in tutte le trasmissioni. Perché funziona, fa ascolto, dice delle sì, cose. Sì, ma giustamente, forti. Per carità, ma nessuno però non ci venga a dire. È a Exit, tra l'altro, pure. Mi risulta di sì, poi non vorrei dare dato indiscrezioni che non dovevo dare, però lo confermo, stasera è a Exit. È roba da matti. Va bene, abbiamo il primo ospite della serata, l'onorevole Domenico Desiano. Buonasera. Desiano, mi sente? Desiano? Pronto? Desiano non mi sente, non so dove si trova. In realtà può scegliere tra la Camera dei Deputati, la Regione Campania, la provincia di Napoli. E non so. A lavorare, poverino, fa una vita dovrebbe di inferno. È anche consigliere comunale a Lacco Ameno, non so dove sia, provincia credo di Napoli. Desiano? Non mi sente. Sonia da Roma. Sì, buonasera. Buonasera, dica. Allora, io volevo intervenire riguardo a questa grande disquisizione. Anzi, complimenti perché riuscite a fare un ottimo cabaret visto l'assist che vi dà la politica. Non mi dica cabaret che qualcuno se la prende. Dice no, che facciamo cabaret, troppo cabaret. No, non è assolutamente sto scherzando. No, ma per me non è offensivo per niente. Qualcuno no, pensa che sia offensivo. Mi servono proprio su un piatto d'argento le battute. No, io volevo entrare un attimo nel merito di questo atteggiamento berlusconiano e di Berlusconi che verso chi, me mi scusi? Ci dedichiamo anche troppo tempo perché vi resta. Ma a cosa si riferisce? Non ho capito. Eh? A cosa si riferisce? A questo suo atteggiamento, la bestemmia, non bestemmia, è inutile che facciamo gli ipocriti, voglio dire, penso che anche chi si batte il petto in chiesa, penso che lo possa anche aver detto. Sì, ma il punto è la barzelletta, diciamo, in pubblico. Questo. No, io non. Secondo lei non è un problema, va benissimo. Non voglio entrare nel pubblico e nel privato. Questo non è rimane, questione di pubblico o privato. Rimane un parvenu, un uomo da bettola. Sonia, adesso questo è un altro discorso. Un parvenu, un uomo da bettola, sono considerazioni. Sì, no, un uomo da bettola, perché chi si comporta così è soltanto uno che ce l'ha dentro. Capito? Ma cosa ha dentro? Non ho capito, cosa ha dentro? Cosa ha dentro? Sognerebbe e per di più. Ma io non le racconto le barzellette perché non mi piace, non mi piacciono le barzellette. Ma anche la barzelletta ci sta, voglio dire, non è questo. E allora qual è il punto? Non ho capito. E comunque offendere le donne. Ma dov'è l'offesa alle donne? Mi scusi, dov'è l'offesa alle donne? Continua, al massimo offende la Bindi, non le donne in generale. Non solo la Bindi, perché quando mi dice era una battuta, quelli sono tre, cioè è tutto il sistema così di risposta al cittadino. Sì, scusi, che ma dov'è l'offesa verso le donne in generale? È un'offesa in confronti dei cittadini, delle donne in particolare. Un'offesa nei confronti dei cittadini, va bene. Ma che cos'è un'offesa nei confronti dei cittadini? Non ho capito, che cos'è è un'offesa nei confronti dei cittadini quando si dice quello ha fatto una battuta, ha detto una cosa, passa tutto in burletta, non ci possiamo poi aspettare che la gente prenda sul serio le cose. Lei fa un discorso generale sugli atteggiamenti di Berlusconi, che io ripeto sono gli stessi da 15 anni, per cui insomma, stiamo parlando sempre della stessa cosa. Io la sento molto poco, mi scusi dottore. Ogni tanto abbiamo dei problemi di linee. La ringrazio, abbiamo il traffico, così ripristiniamo tutta la situazione. Mi sente adesso Sonia? Buonasera. Mi sente? Buonasera. Mi sente o no? La sento un po' pochino. Mi sente male, va bene, problemi di linea, a tra poco. È Eccoci qui, 18:46, questa è la Zanzara. Abbiamo risolto tutti i problemi di comunicazione. Siamo qui con voi, 800 24 00 24, con Parenzo in collegamento da Roma e eccoci, l'onorevole Domenico Desiano. Eccoci qui. Buonasera. Mi sente? La sento piuttosto male, ma la sento. Vabbè, sono in treno, io lo so, lei è in treno. Dove sta andando, Desiano? Io sto andando a Napoli, perché io sono di Ischia. Perché lei è di Ischia. Arrivo a Napoli e poi prendo la riscafa e vado a Ischia questa sera. Per cui lei sta andando, scusi, mi faccia capire, dove si trova? Io sono partito da Roma, okay. Arrivo a Napoli, sì. Scendo. Prendo la riscafo e sì, vado nell'isola di Ischia. Di Ischia, perché io abito nell'isola di Ischia. L'isola di Ischia. Comune di Lacquameno. Lacquameno. Senta, ma perché lei va, perché c'è qualche seduta del consiglio comunale? Questa sera c'è seduta di consiglio comunale. A che ora arriva Ischia? Mi scusi, perché sono già le. Io arrivo verso le 8:15, 8:20 sono a Ischia. Sì. E quindi alle 9 posso partecipare alla seduta del consiglio comunale. Benissimo. Senta, mi scusi un attimo, onorevole Desiano, lei. È deputato da quando? Da 10 giorni. 10 giorni. Sicuro? Sì, 10 giorni. Sì, perché penso di sì, 10-11 giorni dal 24-25 settembre. Dal 24-25 settembre. Poi anche consigliere regionale, giusto? Io sono consigliere regionale, sono stato eletto nella primavera scorsa. Benissimo. Poi è pure consigliere provinciale. Sono consigliere provinciale dal 2009. Dal 2009. No. Ed è anche consigliere comunale in un piccolo paese, Lacquameno. Sono consigliere comunale nel mio comune, dove abito e dove ho fatto il sindaco. Benissimo. Ma ora sono quattro, siamo a quota 4. Uno non dovrebbe sfrondare un po', o no? Dovrebbe, come dovrebbe? No, io devo necessariamente, perché adesso che sono stato eletto deputato al Parlamento, sì, la carica di deputato è eletto, lei è subentrato, diciamo. Io sono stato, sì, sono subentrato, adesso che sono subentrato al Parlamento, sì, devo necessariamente scegliere nei termini regolamentari se occupare il seggio di parlamentare oppure continuare a fare il consigliere regionale, perché le cariche sono incompatibili. Certo, e questo qua, lei, sono passati 10 giorni, dice ancora devo decidere, no? Quando deciderà? No, io deciderò nei tempi necessari che mi dà il regolamento. E quei tempi quanti sono? Quanto si può aspettare? Penso che non superino i 2 mesi. Non superino i 2 mesi, anche se poi abbiamo esempi di gente che ha rimandato fino alle, fino alle... subito. Uno dovrebbe decidere subito, però mi sorge. No, uno, perché lei non decide subito? Qual è il punto? No, io non ho nessuna difficoltà, nel senso che io sono stato eletto deputato da 10 giorni. Sì. Devo comunicare gli incarichi che sto occupando, le cariche elettive che occupo. Sì. Il Parlamento mi farà notare che la carica è incompatibile, a quel punto devo decidere. Quindi te l'ho detto, nel giro di pochissimo deciderò. Come è successo precedentemente a tantissime altre persone. Sì, no. Da destra a sinistra, senza nessun problema. Intanto becca 2 mesi di stipendio. Intanto becca 2 mesi di stipendio dalla Camera e anche da... No, stipendio uno solo, quindi non facciamo confusione. In tutte queste cariche lo stipendio uno solo. È uno solo. Lei quale prende? Quello della Camera adesso? Quello di consigliere regionale. Quello di consigliere regionale. Senta, qualcuno mi dice che in realtà c'è un problema, perché lei, che è vicino al sottosegretario Cosentino, è incerto, perché se si dimettesse dalla Camera subentrerebbe un Finiano. È così? No, se mi dimetto io subentra un altro eletto nella lista del PDL che si chiama Luigi Muro. Esatto, che è un Finiano, però. Non lo so, io che lo deve chiedere. Come non lo sa? Se non lo sa lei, abbia pazienza. Io le rispondo per quello che sono le mie conoscenze. Io le sto dicendo, la persona che mi subentrerebbe è una persona eletta nelle liste del PDL. Sì, ho capito, poi però quello che sia lo deve chiedere a lui. Okay, Desiano, noi sappiamo che è Finiano, e questo è il problema per cui lei è ancora incerto. Non lo so, comunque vede, le scelte in politica, in un partito dove c'è discussione, sì, dove si fanno dei ragionamenti, le decisioni si pigliano insieme. Sì, no, ma io che lei li piglia insieme o che lei li piglia da solo non è quello il problema, però credo che sia uno dei problemi, sia anche questo, il fatto che se lei si dimette dalla Camera subentra un Finiano, no, è un problema. No, non è un problema. Non lo so, perché io lo direi. Non lo so, insomma, è un problema. Senta, Desiano, però Parenzo, qui la situazione è bizzarra, perché lasciamo perdere la questione della Camera, no? Che è da 10 giorni. Ma uno come fa a fare il consigliere regionale e anche il consigliere provinciale, e ci mettiamo pure il consigliere diciamo in un piccolo paese. In effetti il consigliere regionale, il consigliere provinciale o il consigliere provinciale, il deputato lo puoi fare tranquillamente, sono tanti gli esempi. Non dovrebbe essere così. Comunque, insomma, sto dicendo, è un problema legislativo. Poi sì. La legge sta, ma consigliere regionale e provinciale, come si fa? Consigliere regionale e provinciale si può fare o no? Faccio io come lo fanno, e lo faccio bene, per come lo fanno tantissime altre persone in Italia e in Campania. Cioè, regionale e provinciale si può fare? Si può fare senza nessuna. Si può fare. Però non è che se si può fare necessariamente fare. Allora, le cariche non sono incompatibili l'una con l'altro, sono elezioni dove una persona si candida, viene piglia i voti, certo, piglia i voti. C'è anche una questione che si chiama buon gusto. Quindi devi bocciarlo o promuoverlo. No, no, ho capito, però Desiano, signor Parenzo, dice c'è anche una questione che riguarda se uno è eletto a consiglio regionale. Se uno è eletto a consiglio può parlare più forte. No, dico, c'è una questione che si chiama buon gusto, cioè se uno è bravissimo, allora, ma non può fare il poli, poi prendere tutti, gli manca anche la circoscrizione, perché non si crea allora, tanti circoscrizioni. Dobbiamo spazzare via il campo dalle ipocrisie e ragionare concretamente. Allora, per quanto riguarda l'aspetto economico, il problema non si pone. Va bene, perché lei prende un solo stipendio, ho capito. Lei però mi deve no, parlare. Perché lei prende un solo stipendio, lo sto aiutando. Scusa, lei mi deve far parlare. Sì, parli. Non sono io che prendo un solo stipendio perché sono bravo, perché la legge che stabilisce. Sì, ho capito. Ma lo sappiamo, non è un problema economico, certo. Poi la legge oggi non ammette incompatibilità tra la carica di consigliere regionale e la carica di consigliere provinciale. Male. Nel momento in cui il Parlamento stabilisce un regime di incompatibilità rigido e serio, e credo che sia giunto il momento, a quel punto uno fa le scelte. Scusi, Desiano, però mi faccia aggiungere una cosa. Lei come fa a essere, dal punto di vista operativo, uno e trino? Cioè, essere Desiano, perché lei si chiama Domenico Desiano. Ma basta che lo chiede a me. No, ho capito, ma ci saranno delle incompatibilità a livello di lavoro, consiglio regionale, consiglio provinciale, il comune di Lancomeno e da 15 giorni pure la Camera. Ci sarà qualche problema o no? Lei che è un assente cronista. Allora, vada a spulciare quelle che sono le presenze del consigliere Desiano in quello che è il consiglio provinciale e quello che è il consiglio regionale, e vedrà che io sono sempre il più frequente e il più presente. Ma lei sa che la presenza, che è pure importante, per carità, non è l'unica cosa, uno deve anche lavorare, altrimenti uno poi può fare presenza sono, e può anche dormire. Su quella che è la produzione amministrativa, credo che debbano giudicare gli elettori. A quel punto, io sono tanti anni che vengo giudicato positivamente dal corpo elettorale. Comunque, Desiano, lei che lavoro fa nella vita? Come? Nella vita che lavoro fa lei? Ah, che lavoro? Io nella vita sono albergatore. Albergatore. E chi lo fa al posto suo l'albergatore? Non ho capito. E chi lo fa al posto suo l'albergatore? La sua famiglia, qualcuno? La sua famiglia. Io appartengo a una famiglia dove, insomma, facciamo gli albergatori. Gli albergatori. Per cui lei fa in realtà politica al 100%? Credo che occupando queste cariche non ho il tempo di dedicarmi. Vabbè, no, è così, era per capire, insomma. Vabbè, Desiano, se lei non trova, insomma, decida presto. Lei, una volta che decide, comunque provincia e regione la tiene comunque. No, io la provincia la tengo, perché la posso tenere. È un impegno che ho assunto nei confronti dei miei elettori. Devo decidere tra la carica di consigliere regionale e quella di parlamentare. E quella di parlamento. Dunque lei potrebbe comunque, le ripeto, da 4 scende al massimo a 3. È una decisione che va presa, chiaramente la devo prendere io, sì, ma la devo assumere insieme con i vertici del mio partito. I vertici del partito. Dunque lei da 4, diciamo, scende al massimo a 3. Da 4 posso scendere a 3. Puoi scendere a 3. E vabbè, sì, già è qualcosa. Così, per come dice lei. Parenzo, è già qualcosa. Per lui, no? No, la cosa incredibile è che è chiaro che si può fare da tenerne 3 cariche, non è che va contro la legge. Ma quello che mi stupisce è il fatto che non abbia un minimo, come dire, di ritegno nel dire no, io voglio fare tutte e tre le cose, tutte e tre le cariche politiche. Questo è il punto un po' di oggi, no? Perché? Sì, che bisogno c'è? Sarà bravissimo, per carità, però è un po' una concentrazione di potere, no? Anche oltre che di tempo. Desiano, ma lei col tempo come fa a fare il consigliere provinciale, il consigliere regionale? Vabbè, è sparito nel treno tra Roma, Napoli, Ischia. Mandrake, non è un onorevole Mandrake. Pasquale da Bergamo, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera a tutti, anche al signor Parenzo. Senta, due cose. Ciao Pasquale. Salve. La prima è questa, che così anche con un gruppo di nostri amici, ma siamo un po' stanchi di sentire sempre sta gente, sti lamentele, e la hacker che dice che è un bassotto. L'hacker. Sì, l'hacker, sì. No, hacker è un'altra cosa. È un'altra cosa, sì. e tutte queste cose, ma no, Berlusconi non può dire una cosa che tutti o lamentarsi a fare. Questo gli dà sicuramente la possibilità di prendere più voti, e questa era una mia considerazione. L'altra era una domanda che invece vi volevo fare. Ho sentito l'altra sera la direttrice di del secolo Caterina, in pratica. Sì, esatto. E dice una, e ha detto questo: ma fondiamo questo partito perché è in grado di parlare al paese. Ma perché gli altri non parlano al paese? È 20 anni che sento dire che tutti parlano al paese. Volevo una vostra considerazione, se è una cosa che guardi, possiamo sempre. Io e Parenzo sulla questione dei Finiani la pensiamo in maniera, penso, diametralmente opposta. Per me è un'operazione per il momento esclusivamente di potere, è un'operazione che ha come obiettivo quello di fini di scalzare Berlusconi. Non ci vedo nessun contenuto vero, anche perché su ogni singola partita, su ogni singolo tema, i finiani sono terribilmente divisi al loro interno. Che si parli di legge elettorale, di questioni bioetiche, di questioni che riguardano la giustizia, eccetera, eccetera. Orlando da Torino, buonasera. Orlando? Non c'è più. Virginio da Ravenna. Salve a lei e ai suoi cortesi ospiti e agli ascoltatori. Ma io una piccola riflessione su questo pranzo, merenda, come dir si vuole. Picnic ancora meglio, che forse non c'era l'erbetta di contorno, perché forse era dell'asfalto, del selciato. Però la storia si ripete, quindi fin dalla notte dei tempi, quando i potenti si scontravano. Poi c'erano i pranzi di riconciliazione. I pranzi dei nobili, magari c'era anche chi gli metteva il veleno tipo i Borgia, ma vabbè, questo non è il caso odierno. Non però credo. L'ideale sarebbe stato un bel matrimonio, magari fra il Trot e una nipote di Alemano, una figlia, non so, perché quando per dare risaldare ancora di più le situazioni che si sono scontrate. Lei è molto spiritoso, Virginio, e riprendiamo dopo il giornale radio che incombe. Eccoci qui, 19:16, 800 24 00 24. Ancora non ho chiesto a Parenzo dove si trova, però concretamente, fisicamente, dove ti trovi? Fisicamente sono in via del Corso, sto andando verso Piazza di Pietra, ma sentendo la musichetta, la sigla della sua trasmissione, lei è il miglior antidepressivo che esista, sa? Beh, questo è un complimento eccezionale. No, perché mi eccito, quando la sento la canticchio. Ma ti fa eccitare anche la presenza del signor Maurizio Ruggero? Quello mio no, il cattolico lefreviano, quello che parla in latino, tradizionalista, il Sacrum Imperium, quello lì. Lei mi ha evocato, Parenzo, eccoci qua. Signor Ruggero, le disgrazie non vengono mai sole. Mai. Ma la finisca di fare le solite leccate a Cruciani, che fate il solito teatrino voi due, eh? Cruciani è persona per bene, laica, liberale, libertaria. Siamo tutti le volte leccate fra le dita. Un oscurantista volgare, mefitico come lei. Scusi, signor Ruggero, signor Ruggero, le volevo chiedere prima di mandare in onda i TG3. Signor Ruggero, come signore? Come lo devo chiamare? Maurizio, come lo devo chiamare? Ma tu non trattare, scusami Parenzo, non trattare Ruggero come il divino Telma, tu tratti Ruggero come il divino Telma. Anche perché conoscendo delle similitudini, delle similitudini. Ma se ci sono, ma cosa esterna Parenzo lei in continuazione? Sciocchette come al solito, sempre. La sta paragonando al divino Telma, le faccio presente, signor Ruggero. Vabbè, voglio dire, ciascuno ha le idee abbastanza originali che vuole. Ma il divino Telma è lontano mille miglia dalle sue posizioni, soprattutto. Direi un po' di sì, perché tra il cattolicismo, che è la vera religione, e le caricature c'è una grande differenza. È come tra un giornalista vero e Parenzo. Vabbè, adesso non insultatevi. Volevo chiedere al signor Ruggero, al signor Ruggero, che prima di mandare in onda i titoli del TG3, come ha preso tutte queste esternazioni negli ultimi giorni sull'omosessualità, questi coming out. Abbiamo la confessione, poi non è molto nuova, di di Nichi Vendola sul fatto che adotterebbe un figlio, eccetera, eccetera. Quella di ieri, oggi è su tutti i giornali, di Tiziano Ferro, il quale addirittura si è rivolto a un certo punto, questa è la cosa forse più comica, alla Buongiorno sulla questione della sua omosessualità, cioè un avvocato. Poi abbiamo addirittura quella di Favino, un attore che dice: anch'io ho avuto, della serie Chi se ne frega, un rapporto omosessuale. Poi abbiamo avuto altre cose nei giorni scorsi, non mi ricordo, Lele Mora, anche se quella è una cosa controversa. Poi c'è qualche altra cosa, no? Non mi ricordo. Insomma, lei Ruggero, che è così. Ma è detto Ruggero, chissà perché poi voi lo chiamate sempre a parlare di sodomia. E le conseguenze. Ma scusi, che c'entra la sodomia adesso, Ruggero? No, perché questa è sodomia, no? Cioè, stiamo parlando di gente. No, ma la sodomia rivendica... è un'altra cosa. La sodomia. E che cos'è la sodomia? Ci spieghi la sodomia? No, ma la sodomia era considerata un peccato prima, insomma. Ma cioè adesso invece adesso la parola sodomia che significa, Ruggero? Siamo di nuovo da punto a capo. Mi spieghi sodomia per lei? Lei si arrampica sempre sulle sue. Cosa intende lei per sodomia, Ruggero? La sodomia è l'omosessualità, non è che ci voglia tanto per comprenderlo, cioè esattamente questo. Solo che la parola, siccome dà fastidio ai sodomiti, allora non bisogna dirla. Però voglio dire, a proposito del fatto che voi ci chiamate sempre a parlare di questo, poi ci rinfacciate di aver la mania. Uno dei massimi esperti, mi pare. No, scusi, no, Ruggero, grazie, però io le ho chiesto un'altra, grazie, no. Le ho chiesto un'altra cosa. Se lei avesse il potere di decidere, e per fortuna non ce l'ha, dopo quello, diciamo, è quella che si dice un'interpretazione sua, naturalmente, ecco. Sì, no, ma certamente è mia, ma penso condivisa dalla stragrande maggioranza delle persone che ci stanno ascoltando, e anche degli italiani. Faccio notare l'aspetto neutrale del. Certo, assolutamente. Ma io infatti non ho mai dichiarato di essere neutrale. Allora, se lei avesse la possibilità di decidere, di fronte ad un'esternazione come quella del signor Ferro, Tiziano Ferro, che è un cantante, lei lo conosce, no? Cosa farebbe? Cioè, manderebbe i carabinieri? Cosa farebbe? Beh, intanto la prima reazione che si ha a fronte di tutte queste esternazioni, appunto, di tipo sodomitico, è l'orrore, in generale. L'orrore. Beh, vuol dire che siamo una società abbastanza sufficientemente pervertita per avere gente poco, che applaude. Troppo poco pervertita, Esatto, però appunto conduttori pervertiti anche che applaudono a questa cosa. Ma noi non stiamo applaudendo, voi lo state applaudendo? No, non siete da quella parte lì voi, no? Ma quale parte? Quale parte? Ma quale parte? Mi scusi, quale parte? State facendo applausi alla sodomia. Noi applausi alla sodomia. Lei è parente. Ma io non so nemmeno che significa sodomia. Come faccio a applaudire alla sodomia? Abbia pazienza. E poi comunque secondo me questi fenomeni non è che rientrano, come lei dice, nell'ambito della sodomia. Scusi, Ruggero. Cioè rientrano nel senso che l'omosessualità fa parte di questo mondo. Ci sono alcune persone che lo confessano ed è più un fenomeno, come dire, come diceva Parenzo prima, di marketing. In alcuni casi di marketing omosessuale, cioè dire c'è la promozione di un libro e uno nello stesso tempo se ne esce con un'intervista in cui dichiara la propria omosessualità. So, detto con tutto dire sostanzialmente è questi, per farsi applaudire dicono di essere omosessuali anche quando non lo sono. Se fosse così sarebbe già sufficientemente. Vabbè, comunque grave. Dopo l'orrore che cosa c'è? Lei cosa farebbe se avesse il potere e per fortuna non ce l'ha? Cosa farebbe? Allora, purtroppo per disgrazia non ce l'ho, ma qualunque persona sensata di fronte a una cosa di questo genere intanto eviterebbe esternazioni di tipo omosessualista e poi chiederebbe a queste persone che hanno questo vizio, perché di vizio si tratta naturalmente, di curarlo con quelle che sono le medicine spirituali a cui attinge ogni giorno Parenzo, cioè il Santo Rosario, la comunione, la cioè bisogna curare con la preghiera, lei dice, curarle con la preghiera, però curarle sicuramente, curarle i mali spirituali, Cruciani. Sì. Si curano con rimedi spirituali. Ma veramente il signor Ferro, il cantante Ferro, dice di essere finalmente, di avere scoperto la propria omosessualità, di essere finalmente libero di esternarla, di praticarla, di vivere i suoi amori, eccetera. Lo lasci libero di vivere o no? Ma certo, sì, ma noi lasciamo liberi di vivere chiunque. Il problema è che dovrà presentarsi un giorno al Padre Eterno e dalla vita che si fa o meno si viene giudicati. Il punto è un altro. Che è il Padre Eterno? Non è lei il Padre Eterno. Per fortuna, Ruggero. No, per fortuna non è lei. Diciamo, è una persona ma esiste lo stesso il Padre Eterno e si è già pronunciato su questa materia. Non so se vi consta. Scusi, non mi risulta. Lei è come Otelma, ce l'ha chiamata il Padre Eterno. Ha mandato una mail, che ha fatto? No, ma questo è un capolavoro di ignoranza religiosa, Cruciani. Cioè lei lo pensa insieme. Veramente cioè cosa è successo? Il Padre Eterno l'ha chiamata e che cosa ha detto? può dire. Voi altri non avete mai avuto notizia del fatto che, per esempio, San Paolo nelle sue lettere si pronuncia con parole di fuoco contro l'omosessualità, non vi dice niente la parola sodoma, non vi dice niente che è l'insediamento perenne della Chiesa. Voi siete i papi, i padri eterni del laicismo imperante, ci dite voi cosa deve essere il padre eterno, ma fate ridere, vero? No, ho capito, però conto che siete ridicoli, vero? Oggi chi è che dovrebbe prendere provvedimenti, diciamo, interpretando il Padre Eterno? Chi lo dovrebbe prendere? Allora, non c'è da interpretare il Padre Eterno, c'è solo da seguirlo. Guardi, chi vuole seguirlo? Chi vuole dannarsi si danna. Allora, una società tradizionale seria, non dico neanche cattolica, dico una società tradizionale. Sì. Intanto impedirebbe la propaganda omosessualista. E cioè, impedirebbe come? Se uno fa un'intervista di questo tipo, che succede poi concretamente? Ma guardi che la cosiddetta libertà di stampa è un abominio che io detesto. Scusi, no, Ruggero, lei che è esponente del cattolicesimo tradizionalista, sì, concretamente, certo, di fronte ad un'intervista di questo tipo, se lei vivesse nel suo, se vivessimo nel suo mondo ideale, diciamo, se vivessimo nel suo paese ideale, cosa accadrebbe concretamente? Si fa un'intervista, intervengono i carabinieri, che cosa? Vedi che non ci riesce ad arrivare. Cioè, no, prima di tutto, non ci sarebbe neanche un'intervista. Capisci? Come non ci sarebbe? Non ci sarebbe un'intervista. Non esce un'intervista con questa come non è? In che senso non esce? Capisce? Come non, non esce? Esce. Doveva fare. Ho capito, perché non è. Viene stampata. Non viene stampata. E non viene stampata. Cioè, perché c'è la censura, c'è la censura prima. Nel certo, sono favorevolissimo alla censura, ci mancherebbe. Non esiste libera stampa, non esistono soltanto le guardie vaticane. No, lei sta bene, persino Parenzo può sapere che la stampa c'è sempre stata, vuol dire dal tempo di Gutenberg in avanti c'è la stampa. Sì. La stampa, il problema è contro, certo, è contro la stampa cattiva che bisogna intervenire, cioè contro la stampa che viola la norma morale. Abbiamo capito che secondo Ruggero questa intervista in realtà proprio non sarebbe esistita, non ci dovrebbero essere. Queste interviste, queste esternazioni, queste dichiarazioni, perché va bene che se lei vuole ci arriva. No, ma ci sto arrivando poco a poco, Ruggero, capirà che è tempo. È talmente abominevole che è difficile anche per noi intelligenti arrivarci, da quanto è abominevole. No, è tutto, è questo che dico, se persino voi che siete intelligenti ci arrivate. Oddio mio. Infatti, vabbè, intanto Ruggero, vede la differenza tra Cruciani e nel piccolo anche in me. Noi, essendo due liberali, il direttore Cruciani ha scelto di chiamarla e le fa esternare delle cose che in un paese normale a casa e la prenderebbero non a calci nel sedere perché è violenza, ma una risata la seppellirebbe, no? Allora, un paese intanto normale. Voi vi definite liberali e questa parolaccia ve la lascio. Lei sta dicendo delle cose che un attimo, Ruggero, un secondo, lasci finire. Ma neppure in Vaticano la pensano così, cioè no, anzi, il Vaticano mi pare che l'unico scandalo sia qualcos'altro. Quindi ho capito, Ruggero, nemmeno lei è addirittura contrario al Concilio Vaticano II, per cui il Vaticano II è il 1789 della Chiesa, quello che ha distrutto la Chiesa Cattolica. Certo, evidentemente. Se posso rispondere a Parenzo, che così forse molto velocemente sarà utile per il resto della sua vita. No, allora, per il momento inutile. Allora, il discorso è questo. Come Otelma, te l'ho detto, vita inutile, nulla, sei il nulla, sei il nulla. Il nulla, è vero. Parenzo al momento è quasi il nulla. Dico quasi perché c'è anche un rapporto di antica amicizia, nonostante tutto. Allora, dicevo, Parenzo dovrebbe ricordarsi che vi fu un tempo, prima della Rivoluzione francese, in cui al potere c'erano quelli come Ruggero. Siete arrivati voi liberalacci, che con la ghigliottina e le guerre avete fatto questo porcaio. Adesso ci venite a dire, guarda quanto siamo generosi che ti concediamo un'intervista. E no, cari miei, voi siete quelli che avete usurpato casa mia e adesso volete che vi ringrazi perché mi concedete un atrio della casa. Andiamo con i titoli del TG3. Torniamo nel mondo reale. Titoli del TG3. Titoli del TG3. Berlusconi, mai minacciate le elezioni, sicuro della lealtà dei finiani. In mattinata vertice tra PDL e Futuro e Libertà, confermati i presidenti di commissione. Dopo gli insulti di Bossi ai romani, pace fatta tra il leader della Lega e il sindaco Alemanno con un pranzo. L'opposizione, una pagliacciata. Raffica di blitz contro la CISL, uova e fumogeni alla sede di Roma. Contestazioni anche in provincia di Lecco. Ferma condanna del mondo politico e sindacale. Alla Consulta l'esame di costituzionalità del divieto di accedere alla donazione da persone fuori dalla coppia. Critiche dal PDL. Rinvenuto sgozzato a Guidonia, alle porte di Roma, l'ex terrorista nero Sergio Calore. Era collaboratore di giustizia. A una svolta le indagini sulla scomparsa di Sara Scazzi. La cugina e gli zii della ragazza ascoltati dagli inquirenti. E il Danubio a rischio di disastro ambientale per la fuga di fango tossico in Ungheria, proclamato lo stato di emergenza. Bene, abbiamo la borsa tra poco, però Parenzo, volevo dirti che sul fattoquotidiano.it una blogger che segue molto la nostra trasmissione, come altre trasmissioni, che si chiama Gisella Ruccia, in un post dal titolo "Grillo imitato da Parenzo ti sbertuccia un po'" in questo modo: "Parenzo si cimenta in uno scimmiottamento degno della peggior corrida, affastellando bordate parafondellanti e neppure un granché mordaci sui sediziosi movimenti e sull'impetuoso comico genovese. Cruciani gli fa da spalla divertita, ma qualche minuto dopo, ironia della sorte, viene data a dire un ascoltatore di Torino: beh, c'è tutto il racconto di questa cosa qui". E poi insomma, c'è soprattutto un giudizio sulla tua imitazione, che secondo me è straordinaria, di Grillo. È legittimo, assolutamente legittimo. Come? Come? Dico, aspetta che c'è una persona. Castellani, voi due, insomma. Aspetta che c'è un signore che è passato e mi ha detto: basta, questo, chi è lei? No, posso passarle, Cruciani? Sono in diretta con Cruciani. Perché? Come il Pantera? Ma che dice? Ma è il mio direttore. Direttorissimo. Chi è? Vengo fermato per strada, hai capito? Fermato per strada come un eroe, hai capito? Io, un comico, un eroe. Ma lei non è che la fermano per strada perché pensano che sia matto, no? Vero, no? Ma è andato via? No, perché... È andato via? Chi è? Ma c'è ancora l'indemoniato? Ma è andato via o no? Sì, c'è ancora, no. Ruggero c'è ancora, resterà tutta la sera. Se volete vado via. No, resti qua, ma no. Non ho capito, ma c'è ancora quello là o no? È andato se via? Se n'è andato. Ma non so, ma io forse ero un collega giornalista. Può essere, ha detto una stronzata e se n'è andato, vabbè. Normale, ha visto Parenzo, gli è venuta subito spontanea. No, ha detto un'altra stronzata, poi ve lo dico, un'altra stronzata che ha detto. Vabbè. Borsa. Eccoci qui in diretta con la Zanzara, 19:34, dagli studi di Milano di Radio 24, solo 24 ore, 800 24 00 24, è sempre il numero, fra poco gli ascoltatori. Siamo in collegamento con Roma, Piazza di Pietra, David Parenzo, eccoci. Sì, sì. E poi con, non mi ricordo dove, Maurizio Ruggero, da dov'è lei? Da dov'è collegato? Verona. A Verona, a casa sua? Sì, in questo momento sono a casa mia. A casa sua. Esponente del cattolicesimo tradizionalista, ci dica il nome della sua associazione così mandiamo i carabinieri per scioglierla. Ruggero. Diverse, voglio dire, fate pure, chiamate anche la Guardia di Finanza. No, ma potete chiamare, allora, Stacco Imperium, chiamate i carabinieri. Questori della polizia li chiamate per il Comitato delle Pasque Veronesi che si occupa. Scusi, lei è sempre presidente di tutte queste cose, eh? No, beh, sono in alcune, sono il presidente, in altre sono il segretario. Ci dica quello dove è il presidente, segretario, tanto uguale. Sacrum Imperium, poi? Ah, perché lei capisce tanto al chilo, quindi dice, va bene, tutto uguale. Segretario, no, presidente, insomma. Così, tanto, essendo laicista, lei dove arriva, arriva. Certo, tanto, Sacrum Imperium, poi? Sacrum Imperium sono il dirigente. L'unico. Quanti dirigenti vuole fare? No. Siete democratici. Poi? Voi, no? Poi? Poi sono segretario anche del Comitato Celebrativo delle Pasque Veronesi, che è l'associazione che ricorda l'insurrezione di Verona contro Bonaparte. Certo. E poi faccio parte degli altri sodalizi, ma questo è un altro discorso. Però soprattutto Sacrum Imperium, che sarebbe Sacrum Imperium quale? Quale soprattutto? Quale imperium? Le sfugge il fatto che sia stato un Sacro Romano Impero una volta? Non mi sfugge per niente. Che l'orizzonte cristiano, lo Stato per eccellenza era quello lì. E lei vorrebbe ritornare in una situazione del genere? Almeno parleremo tutti i santi giorni a colazione, pranzo e cena di sodomiti e giudei, visto che abbiamo anche l'amico Parenzo. No, attenzione qua. Ma per carità, i giudei, che male c'è? Non ho mai querelato nessuno. Dopo ci arrapico, non mi faccia adesso. Adesso una parte di divertimento in quella battuta c'era. Fermo Ruggero, adesso torniamo, c'è tempo. Prima volevo farvi ascoltare. No, io non mi scandalizzo di nulla, legge Basaglia non c'è più. lo dica Parenzo, lei è una fogna liberale, quindi non si scandalizza. Fogna liberale verissimo, ma io dico però che Parenzo, da qua... Parenzo ha detto una cosa corretta, da quando concludi quel pensiero? No, dico che voglio dire, io sono progressista, quindi la legge Basaglia l'avevo abbracciata. Da quando non c'è più, teniamoci questi soggetti in libertà. C'è un ascoltatore che ha scritto una cosa straordinaria. L'ultimo intervento del mullah Ruggero è stato favoloso. Il mullah Ruggero, quando farà outing o coming out il signor Ruggero? Perché c'è anche questa cosa, chi tanto parla di. Insomma, mi dispiace. Ruggero, prima o poi aspetto il suo coming out, caro Ruggero. Un attimo, siete voi che chiamate Ruggero su questo argomento, per Ruggero parlerebbe volentieri anche di altro. Vabbè. Ma siete voi che avete la fissa dell'omosessualità. Un attimo, Ruggero, ma lei è fidanzato, Ruggero? Ha un fidanzato? È fidanzato, Ruggero? No, ha un fidanzato. Questo Tiziano Ferro che mi aspetta, visto che cerca un uomo. No, vabbè, se non scadiamo in questa volta. No, ma non dica volgarità, ha una fidanzata, una sposata. Io scado nelle volgarità. È sposato. È sposato. Che parlate di queste cose? È sposato. No, le ho chiesto solo se ha una vita sessuale normale. Non sono fidanzato. Non sono fidanzato, credo di rispettare la legge di Santa Madre Chiesa con riferimento ai 10 comandamenti, e quando lo farete voi sarei anche contento. Poi specifichiamo, poi approfondiamo questa vicenda. Le frasi del giorno, fermi tutti, le frasi del giorno o di ieri, insomma, quelle che ci hanno colpito di più, con chi partiamo? Bossi è... ma che cazzo lo fate a fare il Gran Premio a Roma? Questo Gran Premio di Roma è diverso da quello di Monza, l'ho appoggiato. Dai, cazzo corri a Roma, il Gran Premio. Questo, su questo ci verificheremo. L'importante, senza insulti, con la massima, diciamo così, rispetto reciproco. Questo durante il pranzo della riconciliazione, come avete sentito, un alemanno piuttosto imbarazzato. E poi abbiamo Di Pietro con la Rai Minzolinata, questo è bellissimo. Di Pietro e Rai Minzolinata. È vero o non è vero che non c'è pluralità nell'informazione? È vero o vero che la RAI si è minzolinata? Questo è il tema di fondo. Allora, questo hanno posto il problema. Su questo tema... E poi, per chiudere, Margherita Hack e Berlusconi che si dovrebbe vergognare. Io mi domando, ma si guarda mai allo specchio? Questo nanetto, con capelli tinti, la faccia rifatta, e si permette d'offendere una degna persona come la Bindi, si dovrebbe vergognare. Ascoltatori, dove andiamo? Andiamo direi a Orlando da Torino, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Ma non vedo perché stupirsi della fase dell'AC, cioè nel senso, ormai l'andazzo è questo. Lei ci insegna che Berlusconi può, siccome è fatto così, è tanto spontaneo, eccetera, può dire più o meno qualsiasi vaccata gli passi in testa. Quindi no, io non ho detto questo, non ho mai sostenuto che fosse legittimo raccontare barzellette in pubblico, eccetera. Ognuno fa quello che vuole, dico semplicemente che stupirsi adesso e montare un caso sulle barzellette di Berlusconi è ridicolo. Ne abbiamo collezionate, guarda, sto cominciando a raccoglierle, caro Parenzo, le barzellette di Berlusconi, e sono arrivato, almeno quelli in audio, quelle che si conoscono, quelle pubbliche, naturalmente a quota 10-11, magari poi facciamo da domani una sorta di... Un instant book si potrebbe fare. Un instant book addirittura, per cui... alcune risalgono addirittura al 94-95, c'è un Berlusconi, sì. Per cui di che parliamo, Orlando? Questo che sto dicendo. Quindi lei mi sta dicendo che sono 15 anni che Berlusconi racconta sempre le stesse 10 barzellette? No, non sto dicendo questo, sto dicendo che il fatto che Berlusconi racconti barzellette non è una novità, cioè non, poi al di là del merito, la barzelletta sugli ebrei, del momento, la barzelletta dove c'è la bestemmia, l'imprecazione, quella che è, eccetera eccetera. Ma secondo me, vabbè, è facile scandalizzarsi, e io onestamente mi posso scandalizzare, perché il mio macellaio che ha la terza elementare ha più classe di Berlusconi, però Berlusconi è il premier. Ma a parte questo, secondo me sono sempre tattiche per distogliere dalle porcate serie che succedono. Ma questo francamente, Orlando, cioè raccontare barzellette secondo lei è una tattica per non parlare di altre cose o per nascondere? Qui non si può nascondere nulla, cioè, in Italia, al contrario di quello che può pensare lei, non so se lo pensa eccetera, c'è il massimo della libertà di stampa, il massimo secondo me, o comunque è un paese in cui non è che si possono nascondere le cose, ci sono giornali che fanno inchieste, televisioni, radio in piccolo, internet, non è che si può nascondere qualcosa o cercare. Certo, poi c'è la propaganda politica che da una parte e dall'altra è sempre in moto, ma come è normale che sia, la politica è fatta anche di propaganda. No, ma sono d'accordo, però io sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo che c'è un elemento della chiamiamola così, gestione dell'opinione pubblica, sì, che si chiama spinning. Cioè si costringe la gente, magari con buttate del genere, sempre più spacconate, eccetera, magari a parlare di quanto è stupida la barzelletta di Berlusconi, oppure quanto è stupido questo, sì, mentre magari No, Orlando, guardi, io questo termine l'ho appreso dal mio amico Marcello Foa, che ci ha scritto anche un libro sopra la propaganda, eccetera, eccetera, la roba dello spinning, eccetera. Lei ha ragione, esistono queste cose, come non esistono? Diciamo che sono molto più scientifiche in altri paesi più che in Italia, eh? No, vabbè, chiaro, però io penso che Berlusconi si possa permettere fior di consulenti su queste cose, quindi sarà spontaneo, però è una spontaneità studiata, non credo. Dunque, secondo lei è in atto un'operazione, ogni tanto è in atto un'operazione per coprire le magagne o i veri scandali con argomenti, diciamo, che non sono spinosi, non sono, diciamo, di bah, sì, non ho, esatto. Beh, per esempio, adesso per esempio la nomina di Romani. Per esempio adesso si poteva parlare della nomina di Romani, che effettivamente, beh, insomma, direi che se ne è parlato, Sì, però magari se non c'erano queste barzellette sulla Bindi, sugli ebrei, eccetera eccetera, quella roba lì finiva in prima pagina e invece così è finita in terza. Orlando, questa francamente mi pare una forzatura. Adesso che possano esistere operazioni come dice lei, sicuramente, ma lei parla della nomina di Romani, coperta la discussione sul conflitto di interessi Romani eccetera, che ha lavorato per le televisioni, uomo della televisione del Berlusconi, che sono tutti i giornali. Beh, insomma, sono tutti i giornali, se ne è parlato, la biografia su tutti i giornali. Ma sì, su. Orlando, la ringrazio, comunque è interessante quello che ci ha raccontato. Diversa è la questione delle donne invece, lì quella, qui invece è diversa, la questione, cioè, della Bindi, cioè io vorrei citare la signora Veronica Lario Fustoni, perché è stata lei la prima a porre la questione delle donne. Dove ti trovi, che ti sento male? Dove sei? Avvicino, no, di un attimo. Sono sempre a Piazza di Pietra, guarda, sì, sì. Strano però, mi senti bene ora? Sì, adesso meglio. Sì. No, dicevo, fu la signora Veronica Lario la prima a porre la questione sulle donne. Sì. Sì. E a farla diventare anche una questione non solo di costume ma politica, quindi l'aspetto di Berlusconi alle donne, quello è diventato una questione politica, ecco perché la battuta alla Bindi risulta fastidiosa, antipatica, adesso non so se sia la cifra del berlusconismo, non lo credo assolutamente, però è un tema da affrontare. Sì, è un'insistenza eccessiva, insomma, uno dovrebbe porre fine anche a queste cose a un certo ma punto. Ma è anche di cattivo gusto, no? Come la battuta di Cecchi Paone, cioè sono cose di cattivo gusto. Sì, tra l'altro, secondo me, rendono la Bindi molto più popolare di quanto non lo sia, cioè nel senso, intorno alla Bindi si crea un consenso che magari da sola non riuscirebbe nemmeno ad avere, detto con tutto rispetto. Però ironizzare sulle questioni fisiche delle persone è brutto, no, assolutamente. È razzista. Cioè, come ci siamo indignati, io almeno mi fa un po' schifo quando fanno le battute su Brunetta, con questa, che lui tra l'altro ci scherza anche sopra, però capisco che uno ci possa rimanere male. Cioè, giocare sui difetti fisici delle persone non è ironia. No, assolutamente. È cattiveria. Dove andiamo? Direi di andare a Francesco, provincia di Foggia. Intanto ti sto preparando un ospite, se ci risponde al telefono, caro Parenzo, che... Qui saltiamo in aria. Dov'è? No, Ruggero è in sonno, è sempre lì. È sempre allora vorrebbe intervenire, ma non lo fate parlare. No, Ruggero, un attimo, adesso decido io quando lei interviene, se vuole. Ah, ecco. No, è democratico. Io non sono democratico. La radio, come dice un mio collega, è dittatura assoluta. Ho capito. Cioè, quando lei vuole, fa il democratico. Esatto. La radio è dittatura. La dittatura del conduttore. Ancora non è chiaro. La dittatura assoluta del conduttore. Ecco perché sono contro la libertà di stampa, capisce? Lei dovrebbe essere d'accordo, scusi, Ruggero. No, la libertà di stampa no. No, la libertà di stampa, sul fatto che ci sia, che alla radio c'è la dittatura del conduttore. Io sono favorevole a una società tradizionale dove non c'era né la dittatura. Vabbè, la dittatura, insomma, l'autorità, la chiami come vuole. Ma quella legittima, non quella illegittima di Crociani. Questa qua è legittimissima finché non mi tolgo. Ruggero, è come un'ape dentro il casco. Sai quando guidi il motorino e ti entra un'ape dentro il casco? E tu hai il casco chiuso. Parenzo, mi avete dato nulla. Prima una notizia impagabile, che avete fatto finalmente la prima opera culturale vostra. Quale? La raccolta delle barzellette di Berlusconi, cioè questa è una cosa da annunciare, è una novità editoriale importante, solo che vi siete fermati solo a 10, non è che avete fatto un grande sforzo. No, ma io 10 in audio, 10 in audio, 10 in audio, perché... ecco, poi per iscritto chissà quante, naturalmente. Sì, per iscritto. Quindi, poi Poi se posso dire una roba... No, un attimo. Sull'HAC dopo, sull'HAC dopo. Come no, che toccabilissimo. Come no. Francesco, provincia di Foggia. Sì, allora. Pronto. Dica. Dottor Cruciani, buonasera. Lei mi ha messo prima una mezz'ora di compulsità, poi ho sentito tutte le disquisizioni su Berlusconi, e così lei mi ha fatto un po' perdere il Berlusconi tutto. Che oggi ha parlato e ha detto le elezioni non le ho mai minacciate, che sono abbastanza bizzarre. Non era su questo che volevo intervenire. Il voto comunque sarebbe un guaio, farebbero governo tecnico. Un attimo, sto ricapitolando i fatti da giorno, sennò ci accusano di fare troppo cabaret. Parlando con me, io volevo intervenire sul fatto degli omosessuali. Cosa vuole dire sugli omosessuali? Ma io francamente non ho capito se lei ci è o ci fa, come diceva una conduttrice, non so, fa finta di non sapere cos'è la sodomia, fa finta qui, fa finta di là. Ma io non ho capito. Cosa vuole capire? Ma oggi, oggi, non so, se io telefono per dire che diciamo, rivendico la mia eterosessualità, lei diciamo, può rivendicare la mia anche normalità. Sì. Io non faccio notizia. Perché deve far notizia che io chiamo e dice io sono omosessuale? Vuol dire che loro si vogliono mettere in mostra, vuol dire che cercano qualcosa, vuol dire che. Ma chi li vuole, insomma, io questo vorrei. Come che si dica chi li vuole, Francesco? Chi li vuole nel senso ma se la tengano, se la tengano ben stretta la loro omosessualità. Mi scusi, Francesco, abbia pazienza. Qui stiamo parlando di una cosa un po' diversa. Stiamo parlando del fatto che negli ultimi giorni abbiamo assistito a dei coming out continui. Per motivi più diversi. Prima c'è Chipaone che ha detto di aver avuto una relazione con due calciatori, forse della Juventus, eccetera. Poi un attore come Favino, poi un cantante come Ferro. In alcuni casi questa cosa mi puzza un po' di operazione di marketing, vero Parenzo? O sbaglio? Sì, questo lo condivido. Io questo outing a tempo, il libro, le cose, sì, un po' sì, una volta. Ma non perché desti scandalo, perché assolutamente a differenza del regime. No, ma che scandalo c'è? Solo propaganda. Uno scandalo. Però c'è un po' di promozione, ostentazione quasi, no? Sì. Delle abitudini. Cioè, io non è che vado in giro a urlare. Un attimo, Ruggero, mi stia zitto un attimo, Ruggero. No, ma dico io non è che vado in giro ad urlare solo orgogliosamente eterosessuale, cosa vera, posso portare un sacco di prove. Cioè, non è che vado in giro a dirlo, no? Ognuno dei gusti sessuali se li tenga per sé. Ormai è diventata un po' una moda. Una moda, sì, una moda. Un brand. Un brand. Allora, noi vogliamo tornare però sulla questione di Romani con un ospite. Che magari Parenzo da domani noi saltiamo qui, perché qui è un ospite insomma di tutto rispetto, ma soprattutto perché c'è un economista? No, è un ospite per la Zanzara, ormai insomma, la Zanzara è una trasmissione un po' diversa, un po' pop eccetera. Sì. Ci possiamo permettere di invitare anche Maurizia Paradiso. Buonasera. Tutti in Paradiso. Buonasera a Davide Parenzo, che ho avuto l'onore di essere invitata da lui nelle sue trasmissioni su Tele Lombardia. Buonasera Davide. Ciao Maurizietta cara, un bacio, sai. Vabbè, buonasera. Adesso non esagerate. No, un bacio a Maurizia Paradiso si può dare. Ascoltavo il vostro discorso di questa omosessualità che adesso va di moda, è una cosa vergognosa adesso, cioè, cosa è vergognoso, scusi? È vergognoso perché se Tiziano Ferro, cioè voglio dire, a un certo punto non se lo calcolava più nessuno, adesso si è inventato che è omosessuale. Beh, non se lo calcolava più nessuno, dire, insomma, appunto, ma sei stato sempre stato l'idolo delle donne, tutto, ma adesso però, chi ve lo dice un partigiano della transessualità? Perché io sono un partigiano della transessualità e sono fiera di esserlo. Questo. Ecco. Beh, dunque lei trova che queste confessioni siano un po' a orologeria. Ma sono ridicole come quel poco cervello che hanno in testa. Ma voi vi rendete conto che la prima domanda che mi fanno i giovani è come si fa a diventare famosi? E sai cosa gli rispondo io? Hai del talento? No, ammazza tua madre e diventi famoso per un'ora. Vabbè, adesso questo diciamo, un po' esagerato. Dico per dire, sì. Cioè, tutti vogliono diventare famosi. Certe trasmissioni stanno rovinando la testa dei giovani, dei vostri figli. Senta, signora Paradiso, a proposito di trasmissioni, lei ha avuto a che fare con il nuovo ministro dello sviluppo economico, come hanno riportato diversi giornali, no? Sì, un grand'uomo. Mi spiace che anche qua lo stiano praticamente, non lo so, prendendo in giro con articoli vergognosi, schifosi. A cosa si riferisce lei, mi scusi? E agli articoli che c'erano ieri su internet che dicevano dalle tette della Paradiso al ministero. Cioè, no, perché, mi scusi un attimo, la questione è molto semplice. Ieri ho letto una cosa, infatti volevo che lei me la confermasse o no. Sì. Insomma, Paolo Romani l'ha lanciata nel programma Vizi Privati e Pubbliche Virtù. Che anno era, signora Paradiso? Guardi, era il 1993. Io mi sono proposta, ma il signor Romani, che era stato direttore di Tele Lombardia, direttore di diversi reti, sì, con me non voleva neanche parlare. Quando ho sentito il nome Maurizio Paradiso io finivo colpo grosso. Ha detto allora io mi sono offesa, siccome io sono un cancro, cioè niente cancro, ho detto ma io vado lì, lo affronto. Tanto è vero che cosa ho fatto, ho preso la macchina, mi sono andata lì a TV7 Lombardia, ho detto mi scusi ma perché lei non vuole neanche incontrarmi per sentire cosa ho da dirle. Mi ha vista e mi fa che bella donna che è, no? Che è a Paradiso, facciamo il provino, e mi ha sottoposta, pensi che io avevo appena finito Colpo Grosso, quindi non è che avevo messo bisogno di provini, mi ha sottoposta a un provino molto attento. Che tipo di provino? Provino televisivo? Merecchi. Provino televisivo, insomma. Sì, provino televisivo, nonostante io fossi già stata la conduttrice del Colpo Grosso. E alla fine del provino? E alla fine del provino? Alla fine del provino sono stata presa e lui ha detto cominciamo domani sera. Ho detto oddio mio, tant'è vero che l'unica frase che mi è stato chiesto di imparare a memoria era questa: buonasera a tutti e benvenuti a Vizi Privati, lasciatevi prendere per mano alla scoperta dell'erotismo della coppia italiana. Questa era l'unica frase che io ho dovuto imparare a memoria, che mi è stato consigliato di mi fermo con la macchina, signori, perché sennò faccio un incidente. Mi è stato consigliato di imparare a memoria. Devo dire che è stato un editore intelligente, arguto, rigido, molto rigido, mi ha insegnato veramente a fare televisione alle 10 di sera, e anche alle 10 di sera, come mi ha insegnato Tele Lombardia, anche il signor Parenzo nelle sue diverse trasmissioni. Senta, però qua, a parte il signor Parenzo, ieri ho letto una cosa che volevo, volevo insomma che lei mi smentisse oppure magari me la confermi. Mi dica. Sul quotidiano libero. Negli anni 90, dopo l'avventura alla guida della Tele Lombardia di Ligresti, sto parlando di Romani, fonda Lombardia 7 TV e lì, oltre ai telegiornali specializzati nella nera, lancia nel programma di striptease Caserecci, Vizi Privati, Maurizia Paradiso, con la quale finisce appunto a cazzotti, con conseguente esplosione di una tetta finta di Maurizia, non di Romani. Ma le spiego una cosa, ma è vero questo episodio o no? Innanzitutto questo, è vero questo episodio o no? Allora, guardi, ho il tempo per spiegare delle cose, cioè, perché io non mi sento in tribunale. No, non è un tribunale. Non mi sento in tribunale. Allora, lavorando per diversi mesi, per qualche anno, con una persona ci possono essere certi diverbi. Allora, il signor Romani non mi ha assolutamente rotto una delle mie tette finte, che trovo anche poco delicato chiamarla finta, perché comunque è una sofferenza incredibile. Questo è libero che l'ha chiamata così, io ho riportato quello che ha scritto. Ma guardi, a lussuria gli danno della donna, a me danno del transessuale ancora oggi, quando io ho cambiato sesso da 32 anni, mi chiamo Maurizia Paradiso e sono coniugata a Tajana. Chissà Ruggero cosa ne pensa. In Italia, signori, quindi no, va bene, ma così. Perché per me può fare tutto quello in Italia. Alle donne danno degli uomini, agli uomini danno delle donne. Comunque, sì, certo, il mio seno, non sono nata con il seno. Vabbè, ma questo qua adesso non ci addentriamo in questi particolari. Ecco, no, allora c'è stata una specie di discussione tra di noi. Ecco. Di discussione tra di noi, dove io sono scivolata per terra e cadendo per terra. Sono caduta per terra e si è rotta una protesi del seno. Sì, ma mi si è rotta anche nel 2005 una protesi del seno in casa mia. Ma lei non ha dato nessuna responsabilità al signor Romani per una cosa del genere, no? Ma sa, la cosa è successa nel 1994, se non erro. Sì, nel 94, quando io ero già sposato. Io ero sposata con Claudio Tajana. No, perché ci sono in giro un sacco di voci che eravamo fidanzati, un sacco di voci che lei non è mai stato fidanzata col signor Romani, no? Ma se, guardate, io no, io ma è una domanda, è così. Guardi, conduttore, io e Romani ci siamo amati professionalmente e basta. Lui prendeva una sedia le sere, quasi tutte le sere, quando era lì in televisione, si sedeva davanti a me a guardarmi. Poi, se ero stata brava, mi diceva sei un genio. Se dovevo essere sgridata, super sgridata, si può dire cazziata a quest'ora? Sì, come no? Certo. Abbiamo detto di peggio. No, io so di essere una radio molto importante e quindi rispetto voi come voi avete rispettato me. Ecco, lui mi ha sempre sgridata, mi ha inquadrata, mi ha indirizzata. Poi c'è stato un periodo, poverino, dove le cose andavano male e non ha avuto magari soldi per pagarmi lo stipendio immediato alla fine del mese, magari ha rimandato. E c'è stato qualche diverbio, vabbè. Ma sì, la sua redazione non ha mai avuto un diverbio col suo editore. No, ma certo, non c'è. Non volevo entrare in questo particolare. Però confermato. Ha la fortuna di non avere il tetto finto come il mio, come scrive il libro. Non ce l'ho. Non so se sia un bene o un male, però non ce l'ho. Che devo fare? Senta, siamo a Paradiso, però le voglio chiedere una cosa. È vero che vi siete sentiti quando lui è stato nominato ministro e gli ha detto di non parlare più? No, io l'ho chiesto io ieri mi sono svegliata senza sapere niente e a un certo punto mi squilla il telefono da morire con tutti i giornalisti. Guardate che solo con voi ho parlato. No, lo so, la ringraziamo per questo. Io ho parlato solo con voi e allora dico...

Centrosinistra, leader cerca, si è rispunta Montezemolo, candidato dall'ex braccio destro di Veltroni Bettini. Lui taci, ma sul Papa straniero per battere Berlusconi è subito lite. La legge 40 sulla fecondazione assistita torna davanti alla Consulta. Il Tribunale di Firenze accoglie il ricorso di una coppia contro il divieto della fecondazione eterologa con il seme di un donatore. Trovato sgozzato vicino a Roma l'ex terrorista nero Sergio Calore, collaboratore di giustizia, aveva raccontato molto sulle versioni di destra, da Piazza Fontana ai rapporti con la banda della Magliana. E siamo qui sempre con Parenzo, collegato da Piazza di Pietra. Parenzo, sì, sono alla caffetteria, adesso ho appena intravisto anche l'onorevole Mosca del PD. Sì. Che ti saluta, se vuoi te la passo, che sta prendendo un aperitivo. Ma casomai l'onorevole Mosca Partito Democratico del Partito Democratico, sì, se non ricordo male. Saluta. E ricambia in questo momento, abbiamo ricambia un po' di Cruciani, eh? Ricambia, digli è il direttorissimo, mi trattami bene ogni il direttorissimo tanto. Cruciani ricambia. Ha fatto un bellissimo sorriso. Bene, questo sono contento di questo. Dove andiamo? A sentire Federico da Milano, sempre 800 24 00 24. Alla caffetteria di Piazza di Pietra, è un po' un luogo di passaggio di vari politici, per chi non lo sapesse, naturalmente il luogo dove si trova in questo momento il signor Parenzo. Da casa sua a Verona è collegato anche Maurizio Ruggero, che è presidente o segretario di Sacrum. Com'è, Ruggero, mi scusi? Sacrum? Perché fa finta di non ricordartelo? Perché l'ho segnato qua, l'ho segnato. Sacrum Imperium. Sacrum Imperium. Ecco, no. Non è svenuto per l'intervento della signora Paradiso, no? Non è svenuto. No, ma io conosco da tempo la signora Paradiso per ragioni televisive, mi sono trovate molte volte. Sì, avete litigato abbastanza. Devo dire, il fatto che sia diventata conservatrice la Paradiso la dice lunga. Ma conservatrice in che senso? Mi scusi, Ruggero. Insomma, ha fatto battute abbastanza conservatrici. Persino lei è schifata di una certa immoralità dilagante oggi, il che vuol dire veramente che si è arrivati a livelli insopportabili. Insopportabili. Insomma, no? E la signora Paradiso collegata da casa sua, perché ha avuto anche un piccolo incidente, vero signora Paradiso? Sì, siccome io mi do molto al mio pubblico, mi sono tuffata sul mio pubblico. Ma senza quando? Avvisarlo. Quando Anitex, il pubblico, beh, certo, si è aperto, sono andata giù a balla come un ferro da stiro, mi sono spaccata a mezza. Scusi, cioè, non poteva esserci qualcuno là che la prendeva? Non poteva... Era il pubblico che doveva prendermi, infatti il giorno prima mi ha presa. Allora il venerdì mi hanno presa, il sabato mi hanno preso, la domenica si sono aperti come l'acqua quando Mosè ha aperto le acque, e mi sono fatta male, ma consapevole di quello che stavo facendo comunque. Fortunatamente non mi sono rotta il piede, ho slogato una caviglia, mi sono massacrato un ginocchio. Vorrei salutare il signor Ruggero, che io chiamo sempre Immaginetta, e ricordarle che quella piccola medaglietta della Madonna che lui mi ha regalato, certo, mi è proprio venuta in mano l'altro ieri, che era in una giacca rossa in una trasmissione di Tele Lombardia con David Parenzo, ed è una medaglietta che io conservo nel mio cuore, perché io credo fermamente in Dio, nello Spirito Santo e nella Madonna Vergine. E dopo questa confessione di Maurizio Paradiso sulla Madonna eccetera, direi che abbiamo chiuso il cerchio, vero Parenzo? Insomma, assolutamente, ma Maurizio forse lo ricorderà, quella volta che scagliò contro Ruggero una sedia della mia scenografia, memorabile fu. Ma sì, dottor Parenzo, contro Ruggero, al signor Ruggero, che comunque è un simpatico, sì, è un simpatico, ma è un simpatico esibizista, qualcuno scaglierebbe anche, non so, cioè un Kalashnikov intero, cioè voglio dire, però bisogna interpretarlo Ruggero, come bisogna interpretare sì. Me. Ruggero è un simpatico anticonformista. Ecco, beh, purtroppo ci crede, questo è il dramma. Se uno non ci credesse, siccome ci crede. Comunque, vabbè, ascoltatori, abbiamo. Ma diciamo che Ruggero è un simpatico rompipalle, ecco, se vogliamo dire. Ecco, appunto, se poi mette in mostra molto carinamente, certo, poi quando ci sono gli spazi pubblicitari regala medagliette della Madonna. A me ha fatto molto piacere la medaglietta della Se fosse della seguita donna, quella medaglietta, io credo, sarebbe meglio. Se fosse seguita, lei dice, Ruggero, se fosse seguita nella pratica quotidiana, meglio. Dice, nella pratica quotidiana. Vabbè, ma ognuno fa il suo mestiere. Fa, ognuno fa il suo mestiere, Ruggero. La signora Paradiso fa il suo mestiere da un sacco di anni, era una donna di spettacolo da tanti anni, uno spettacolo. Ma guardate, signori, io mi ritengo, io mi ritengo laureata in psicologia per un diritto alla vita. Io sono un distributore di sorrisi e di carezze. Io non ho problemi, io aiuto le persone a attraversare la strada. Oggi c'è un crollo dei valori totale. Io vedo dei ciechi al semaforo che vanno a battere contro il semaforo, non c'è un cristiano che porge il braccio a una persona adesso, non vedente, scusi, per scusi, aiutare. Signora Paradiso, adesso i ciechi che vanno a sbattere ai semafori a frotte, io francamente non ne vedo, però adesso un attimo, fermi tutti, devo mettere ordine in questo casino serale. Sergio, non ridere Valenzo, se no non mi aiuti. Sergio da Brescia, buonasera. Direttorissimo Cruciani, buonasera, buonasera, lei e i suoi ospiti. Ma dopo un po' di attesa, io volevo fare un intervento che mi ha illuminato, quello dell'onorevole De Siano. Che avete l'onorevole prima. De Siano, sì, ce lo siamo dimenticati. Dopo aver sentito anche Ruggero, devo fare outing. L'intervento di De Siano mi ha illuminato. O coming out, che dir si vuole. O coming out, e praticamente lo amo anche fisicamente, anche perché rispetto alle critiche mi è sembrate arrivare da voi, questo è un genio. Chi? Cioè, Ruggero, lei dice? No, De Siano. Ah, De Siano. Poi su Ruggero dovrei chiedere a Parenzio, che prima diceva ti meriteresti un calcio non so dove, invece quantomeno una ditata, vorrei sapere dove la ditata, ma quello se vuole dirlo dopo. Negli occhi magari. Negli occhi, va bene. E su De Siano, insomma, questo è onorevole da 10 giorni, è consigliere provinciale, consigliere regionale, è consigliere comunale, e per quello che dice lui, però verifichiamolo tutti quanti, lui prende un solo stipendio. Ragazzi, abbiamo fatto bingo, abbiamo risolto i problemi dei costi della politica, cioè italiana. È meglio sommare le cariche, in questo modo si dà solo uno stipendio, cioè, non è una cattiva, una provocazione, niente male. Cioè, io invito De Siano a restare in Parlamento e a portare avanti un progetto di legge che obblighi tutti i politici a ricoprire più incarichi, sempre prendendo un solo stipendio, perché sennò non funziona. No, beh, certo. E poi sul fatto che c'hanno tanto da fare, c'hanno tanto da studiare, beh, se quello che devono fare è arredare casa oppure andarsi a fare due bucatine alla matriciana o la pagliata, beh, voglio dire, 4 incarichi ci stanno anche bene. Ho capito. L'ultimo... Intanto, a proposito di pagliata, resti con me, devo dare la pubblicità. Qualcuno mi chiami, abbiamo tempo fino alle 21, la trattoria di Testaccio I Mattarelli, che ha realizzato la pagliata di oggi davanti a Montecitorio. Pubblicità. Eccoci qui con la Zanzara Special questa sera 23 18 00 24 00 24, con Parenzo collegato da Piazza di Pietra, a Roma, davanti, anzi è seduto alla caffetteria se non sbaglio. Chi hai davanti? Parenzo, ci sei? No, Parenzo non c'è, mi sa che si è alzato per non pagare il conto. Chi è al telefono, mi scusi? Un suo amico. Suo amico, si può sapere il nome? Sono Alessandro Aleotti. Ah, signor Aleotti, buonasera, come sta? Buonasera, bene. Come va? Anche lei conosce la signora Paradiso? Come no? Ci abbiamo litigato qualche volta. No, ci abbiamo litigato. Io litigavo con Ruggero. Con Ruggero, anche con la signora... Solidarizzava con la signora Paradiso. È andato al bagno? Dove è andato? A pagare? Dove è andato? È andato a pagare, non capita quasi mai, quindi difficilmente è andato a pagare. Secondo me è andato al bagno. È andato al bagno. Senta, signora Leotti, vuole dire ai nostri ascoltatori lei che professione fa, che mestiere fa nella vita? Ahimè, faccio il mestiere che fa lei, caro. No, lo so, io lo so benissimo, però insomma lo comunichi anche ai nostri ascoltatori. Faccio il giornalista e dirigo una cosa che si chiama Milania. Sì. Non è proprio un giornale, è un think tank sulla trasformazione urbana. Sì. Spiegato molto di più, cioè, sì, siamo rimasti certo a livello di prima. No, vabbè, che c'entra? No, assolutamente. Senta, no, sono degno di fare il vice Parenzo. Nel come no? Tutti sono degni di fare il vice Parenzo. Non esageriamo adesso, non diamo troppa importanza a questo Parenzo. Così in basso, e non diamo troppa importanza a questo Parenzo. Perché, no, è che lui mi ha pregato di rispondere. Io gli ho detto che non avrei assolutamente risposto. Lui ha detto, ma se non rispondi, poi dopo perdo il contratto. Allora, certo. Io impietosito dalla. prossima povertà di Parenzo ha risposto. Senta, signora Leotti, quando Berlusconi, certo, assolutamente, quando Berlusconi dice, come ha detto stasera, mettiamo subito alla prova così vedere se lei è in grado, assolutamente, però la mettiamo subito alla prova. Quando Berlusconi dice stasera: io sono sicuro della lealtà dei fini anni, non ho mai parlato di elezioni, non le ho mai minacciate, la legislatura si chiuderà nei tempi previsti, lei ci crede o non ci crede? Risponda al signor Leotti a questa cosa. Ma lei ci crede? Mi è una risposta che non saprei su quale piano darla, nel senso che sul piano semantico è divertente unire Berlusconi al tema della lealtà, perché ha un rimando all'immaginario femminile, alle donne. Quando pensa alla lealtà non pensa alla politica, pensa alla fedeltà delle donne. Sul piano della politica, cioè lei dice la lealtà in politica non esiste, insomma. Non c'è. È una regola che nessuno rispetta e che quindi non fa parte delle regole del gioco. La politica è una costruzione quotidiana di ipotesi che poi sono sempre destinate ad essere cancellate. Assolutamente, questo sono d'accordo. La seconda cosa che voleva dire? Io? No, sì, voleva dire sul piano politico invece? Sul piano più strettamente politico credo che la lealtà sia sinonimo di convenienza nella politica, per cui oggi Berlusconi non ha interesse ad andare a votare, i fini anni nemmeno. È per questo che, nonostante che si faranno tante scaramucce, si spaventeranno vicendevolmente, ci saranno sempre poi dei momenti di riappacificazione, di tregua, non credo conviviali, perché ormai i rapporti tra i due sono talmente tesi da non permettere nemmeno un caffè, ma diciamo ci saranno molti go e altrettanti stop, per cui le elezioni si faranno quando Fini sarà pronto e Berlusconi pure. Adesso uno deve organizzare il partito, l'altro deve organizzare quanti? 11.000 team della libertà. Con un milione di persone, certo. C'hanno altro da fare adesso. Così parlò Aleotti. Traffico. Eccoci qui, 20:19, 800 24 00 24. Vogliamo dire una cosa seria, non perché le cose che abbiamo affrontato finora non siano serie, Parenzo, che queste aggressioni continue nei confronti della CISL, del sindacato CISL, e in particolare nei confronti di Bonanni, come sapete, sono una vergogna. Oggi è successo a Roma che è stata imbrattata, presa d'assalto, anche se poi non si è trattato di un assalto vero e proprio, ma comunque sono stati imbrattati i muri della sede nazionale, uova e fumogeni, ci sono stati altri attacchi, una sorta di irruzione a Merate. Al TG1 Bonanni ha detto: alla dirigenza FIOM dico fermatevi, perché state provocando un attacco diretto alla FIOM. Dal punto di vista politico di Bonanni, alla dirigenza FIOM dico fermatevi, perché state provocando pericolosissimi atti di squadrismo. Anche la CGL, secondo Bonanni, spero che cambi l'atteggiamento di tolleranza che ha tenuto finora nei confronti della FIOM. Dunque un attacco di Bonanni che attribuisce la responsabilità di queste irruzioni, di questi atti di vero e proprio squadrismo nei confronti della CISL proprio alla FIOM, cioè dire alla sezione, diciamo, della CGL che si occupa dei metalmeccanici, no? Tu che dici, Parenzo? No, sulla responsabilità della FIOM non mi esprimo, non lo so. Certo è che un sindacato come quello della CISL è bersaglio da mesi di una campagna diffamatoria pericolosissima, quando si dice che loro sono collaterali al governo, lì si accusa delle peggiori nefandezze nella chiusura di contratti importanti per i lavoratori. Veramente squalificante e pericoloso. Poi questo gruppo Action, già più volte presente in più città italiane, perché anche a Milano ci sono, si sono già altre volte, come dire, manifestati con azioni di questo tipo. Daniele, è veramente vergognoso che il dibattito sindacale si riduca a questo. Sì, soprattutto che, voglio dire, attaccare una sede della CISL, cioè io non sono un appassionato di sindacati, non sono proprio uno che ho sempre pensato che i sindacati fossero uno dei grandi problemi dell'Italia, no? L'atteggiamento di, compresa la CISL, dal punto di vista storico sto dicendo. Andiamo a Milano. Daniele, buonasera. Buonasera, mi sentite? Sì, dica. Volevo, Intanto salutare sia Alessandro Leotti che Maurizio Ruggero, che ho avuto l'onere in passato di avere gli ospiti nella mia piccola TV a Treviglio, quindi vi saluto molto più. Bene, bene, ormai abbiamo creato una sorta di band lombarda in trasferta a Roma, io sono a Milano, una confusione tremenda. No, beh, è stato un caso perché vi ho sentito così, ho deciso di chiamare, ho avuto la fortuna di prendere la linea. Può stare sul leggero, dire due cose sul discorso della notizia di ieri, no? Sì. Vorrei dire che la cosa che secondo me deve stupire non è tanto il fatto che uno si dichiari gay o meno, è il fatto che in Italia si ritenga che faccia notizia. Perché questo sta a dimostrare, cioè se fa notizia che una persona... Però non fa notizia solo in Italia, devo dire la verità, Daniele. Quando un personaggio molto conosciuto dello spettacolo, eccetera, dichiara la propria sessualità o parla della propria sessualità, comunque va a finire sulle copertine dei giornali, come Vanity Fair in questo caso, o come altre riviste di questo tipo. Non è una specialità solo italiana, eh? Diciamo che però in Italia fa più presa, perché comunque anche quando uno come Ferro magari si dice, si vocifera, finché non lo dice, cioè voglio dire, alla fine è materia che fa, che alimenta un po' di mercato, voglio dire. Non è una cosa italiana, cioè quando un personaggio conosciuto del mondo dello spettacolo parla della propria vita privata, in fin dei conti, cioè con chi va a letto, con chi non va a letto, quali sono i suoi problemi, e rivolgersi alla Buongiorno, le paturnie e tutto quanto, credo che sia una cosa che interessa un certo tipo di pubblico e che fa notizie, in ogni caso fa notizie, ma questo, ripeto, non succede solo in Italia, succede in America, cioè, ci sono pieno di giornali che pubblicano notizie sulla vita privata dei cantanti e degli attori. Sì, ecco, però ecco, forse da questo punto di vista, siccome l'argomento fa sempre scalpore, però riguarda anche, ahimè, molti mariti sposati, secondo me è più, c'è più da interrogarsi sulla salute mentale di chi magari si sente attratto da un transessuale con attributi maschili e femminili assieme, piuttosto che da chi... No, il punto è che ci si meraviglia tanto di quando uno è gay, no? Perché fa notizia. Ma veramente non è che ci meravigliamo. Un ragazzo va con un altro ragazzo, ma invece secondo me è più da malati sentirsi attratti magari da sposati, da transessuali, che non da un ragazzo normale. Ma io adesso questo tipo di paragoni, Daniele, io non lo faccio, per cui per me non si tratta quasi mai, al contrario di quello che può pensare Ruggero, si tratta di situazioni assolutamente normali con cui si convive, con cui un perfetto relativista. Io sono abbastanza relativista. Non lascia passare secondo per manifestarsi come persona che non ha nessuna convinzione morale in materia. Complimenti, benissimo. Parenzo, tu hai convinzioni morali, Ruggero? Parenzo, cos'è che ha detto? Che io sono uno che non ha nessuna convinzione morale. Non ha nessun principio morale. Ma poverino, ma veramente, ma come ha detto Marchionne qualche giorno fa, hanno aperto le gabbie. Si riferiva alla politica. Ma però. No, ma si riferisce. Ma io invece mi riferisco anche all'autorevole ospite di questa sera. Ma come si fa a dar giudizi morali così trascia? Ma chi è il Papa, Ruggero? Ma chi è? No, Ruggero, ma chi è? Vorrebbe forse. Secondo lei il Papa è abbastanza tradizionalista per lei, Ruggero, l'attuale Papa? Bella domanda. L'attuale non è affatto tradizionalista. Ecco, lo vedi Parenzo. È un conservatore. Ruggero scomunica. Avete perso l'idea di cosa. Ruggero scomunica il Papa. Lei vuole scomunicare. No, Ruggero scomunica il Papa, però Ruggero ha ancora chiare le idee, sia nell'ambito morale. Sì. Che è l'ambito della Chiesa, che voi invece non avete. Se posso dire una roba. Però scusi, sui comandamenti, se lei può dire quello che vuole, sui comandamenti, lei dice non, che non segue. Non mi sembra tanto, perché fa il conducator, non fa il conduttore. Io l'ho detto che qui c'è la dittatura. Appunto, non l'ho capito. Appunto, conducator, assolutamente, esatto. Come Ceausescu. Come Ceausescu, bravo. Senta, sì, vede che so anche un po' di romeno. Sì. Senta, Ruggero, mi scusi un attimo. Lei segue alla lettera, ha detto, i 10 comandamenti, giusto? No, segue lettera. Tutti dovremmo seguire la lettera. Vabbè, tutti, io non credo, io non li seguo, glielo dico, non li seguo alla lettera. Avevo un sospetto su questa materia. Mi capita di non seguirli, non dico che non li seguo mai, mi capita di non seguirli. Ora, tra questi comandamenti c'è anche quello di, a proposito delle relazioni tra uomo e donna, qual è? Me lo ricordi lei, Ruggero, che ho la testa? Il sesto comandamento, non commettere atti impuri, vuol dire lei... Non commettere atti impuri. Cioè lei mi vuole dire che non è lei fuori dal matrimonio. E dunque lei non è sposato, fuori dal matrimonio ha, come dire, non ho relazioni, certo. Non ha relazioni sessuali. Ma neanche un bacino a nessuno ha mai dato. Non è così difficile capirlo. Cioè, lei mi sta dicendo che è vergine. Cioè, voi siete così oramai. Avete proprio no, perché lei dovrebbe essere coerente, essendo cattolico tradizionalista, certo, dovrebbe essere coerente. Allora, io ho detto che non ho relazioni con terze persone, come ovvio. Come che con sia, terze? Non... Con seconde, sì. Vabbè, se vuoi. Terze persone. Con seconde, se vuoi. Vedi, Ruggero è un sostenitore. Quello che è grave è voi. Come, scusa, Parenzo, che dicevi? No, a me risulta che per rispondere alla tua domanda, usando il metodo della maieutica, poi Ruggero le spiego che significa. No, lo sai, forse poi è Cruciani che dovrebbe spiegarle. No, Cruciani lo sa, lei non sa cos'è la maieutica. Lei è a favore della prostituzione, giusto? Perché lei mi insegna che nell'antico stato pontificio la prostituzione era ammessa. Tant'è però che lei. Ho notato che l'unica cosa che Parenzo ha capito lo stato pontificio era che c'erano i bordelli, che è vero. Però mi scusi, Ruggero. Una cosa Ruggero. Quindi vuol dire per la proprietà transitiva che lei. Lei a Roma, Parenzo, si è fatto un giro e ha capito dallo stato, dello stato della chiesa che c'erano i bordelli. Comunque era così, è così, Ruggero. Ma io, infatti, sono favorevole a che ci siano le case chiuse, non perché moralmente parlando sia giusto avere relazioni con prostitute, ma perché piuttosto che uno le veda per le strade, come sono in queste condizioni, sì, o abbia relazioni clandestine, è meglio evidentemente che la prostituzione sia, essendo un fenomeno ineliminabile, controllato in luoghi chiusi. Però lei ci va? Frequenta questi luoghi? No, è ovvio che no. Se non ho relazioni con le seconde, figuriamo se ce l'ho con le terze o le quarte. Ma da quanto tempo ha non ha relazioni con le signor Ruggero? Ecco, ma scusi, diciamo così, mi vuol fare la confessione, proprio lei che non crede in niente. È lei vero, che non ha nessun principio morale. Ci sarebbe bisogno di un prete, ha ragione, ci sarebbe bisogno di un prete. Confessi lei prima, Cruciani. Ha ragione. Abbiamo la borsa, torniamo subito, 800 24 00 24. Che facciamo? Dobbiamo richiamare la signora Paradiso oppure no? Dobbiamo completare il discorso vicino al paradiso, qualcosina. Parenzo, tu hai qualcosa da chiedere? Soprattutto tutti per... in paradiso, l'unico paradiso che desidero è quello lì. È quello lì. Ruggero, anche lei desidera quel paradiso là? No, per carità. Non sia mai. Maurizio Inferno. Altro vabbè, borsa. Eccoci qui con la Zanzara, 20:34, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Siamo sempre con Parenzo in collegamento da Piazza di Pietra a Roma, Maurizio Ruggero in collegamento da Verona, da casa sua, e anche Maurizia Paradiso da Milano, nei dintorni, dico così, generico, va, se no la vanno subito a pizzicare, nei dintorni di Viale Zara, signora Paradiso, è vero? No, beh, sì, io abito in Viale Sarca, ma siccome Viale lei lo dice direttamente, allora io volevo... Viale Sarca è lunga 10 km, non mi troverete mai, poi non ho niente da nascondere. Oh, vabbè. Vorrei solo dire, caro conduttore, che non sono porci quei romani, sono fantastici quei romani. Ah, ecco, questo me l'aspetto. Grazie, signora Paradiso. Ma grazie a voi, ringrazio dal profondo della mia prostata, vi mando un bacione. No, un attimo solo, volevo chiederle ancora una cosa, signora Paradiso, ed era questa, ma... poi i ringraziamenti dal fondo della sua prostata sono tutti da interpretare. Chi è che ride? Parenzo, chi ride? È un'immagine meravigliosa, però. Parenzico è un intellettuale goliardico. Senta, ma la telefonata con il signor Romani, con il neo ministro Romani, come si è conclusa poi alla fine? Ma l'ho chiamato io perché mi sono messa a piangere. No, ho capito, ma come si è conclusa la telefonata poi? Ma lui è stato gentilissimo, mi ha detto ciao Mau, perché lui mi chiama Mau. Sì, Mau. E io non le ho detto buongiorno, buonasera signor ministro, gli ho detto ciao Paolo. Ciao Paolo, certo. Sì, gli ho detto ciao Paolo, gli ho detto cavolo, ma c'è un sacco di giornali e di televisione che mi chiamano perché dicono che scappavamo dai ristoranti senza pagare il conto. Lui si è messo a ridere e fa, beh, chi se ne frega, cioè si è messo a ridere. Perché ho detto, ma che cos'è questa storia? Ma io sono spaventata, perché io uscivo spesso con lui a cena quando lavoravamo insieme. Certo, è normale. A mangiare tutte le sere a mangiare, no? Perché ho lavorato 2 anni lì. È quasi. Normale, certo, è normale. Poi c'è stato l'episodio di quella diatriba, di quella discussione. Vabbè, discussione, quello. La mia tetta finta al silicone, che chiamata da libero.it al silicone, chi non ha una tetta finta la scagli la prima pietra. Beh, io non ce l'ho. Non è scoppiata perché Romani me l'ha fatto scoppiare, è scoppiata perché io cadendo per terra ho picchiato il seno sul pavimento di TV7 Lombardia. Ma lei è caduta perché stavate litigando con il signor? Sì, abbiamo avuto una discussione, ci stavamo mandando a fanculo, insomma, come quando si... Certo, scusi la parolaccia. No, lei può, a lei se... Cortese, è come si fa quando si lavora insieme dopo tanto tempo, certo, che magari uno non è in, è in disaccordo con le opinioni di qualcun altro. Senta, siccome lei insomma, ha conosciuto il signor Romani per 2 anni, avete lavorato insieme eccetera, ma io ho una curiosità, Parenzo, gliela chiediamo insieme, ma la signora, sì, Paradiso ha, in, ha mai incontrato lui? Lui l'ha incontrato, lei, lui, lui, sto parlando... Il press, il CAV. Il CAV, lui, lui, signora Paradiso. Chi è lui? Beh, lei ha capito che cosa intendo, su, lui, lui. Ma chi, Pisello? No, no, che c'entra adesso? No, quello che c'entra, quello immagino. Ma io l'ho sempre visto vestito, questo signore che tra l'altro, povera Stella, allora era, era veramente un po' povero, perché... Come, ma non sto parlando del signor Romani, sto parlando... Ma Romani, il capo del Biscione, l'ha incontrato, il capo del CAV, l'attuale premier, l'ha mai incontrato? Ma no, il mio amato Mussolini, ma l'ho visto una sera, ero a mangiare al Cota Radio a Milano, io conducevo Colpo Grosso, arrivo lì, mi siedo e nel tavolo vicino a me c'era il premier e Craxi. Beh, il premier all'epoca non era il premier. Il premier mi ha guardata, mi ha fatto un sorriso e ha continuato a cenare. Basta, questo è stato il suo unico incontro con Berlusconi. Poi dopo Parenzo è stato l'ideatore del famoso spot di Tele Lombardia per prendere in giro il premier, che ha fatto fare, mi sembra, Davide Parenzo, che era bellissimo, che me lo ricordo ancora a memoria, e diceva: per le elezioni regionali del 2000 ci sarà da scegliere tra due Italia, l'Italia braccia, fortemente virile, l'Italia che fa la voce grossa, e l'Italia dell'amore. All'Italia dell'amore mi veniva fuori il naso di Pinocchio dietro le spalle. L'Italia che ho scelto io, sono sicura, sceglierete anche voi. Maurizio Paradiso for president. Ma Parenzo, hai fatto una cosa del genere tu? Tutto drammaticamente vero, avevamo candidato Maurizio a premier, vero? A che cosa, scusa, premier? No, avevamo fatto una lista Paradiso, tutti Paradiso. Una lista, guardi, per Maurizio a premier. Signor conduttore, guardi che io mi sono tagliato il pisello, non il cervello, io sono molto intelligente. No, ma io non ho detto, scusi, signor Paradiso, io non ho mai messo in dubbio la sua intelligenza, per carità. No, perché voi pensate che insieme agli attributi ci venga tolto un pezzo di cervello, anzi, io godo di, io da quel momento, da quando ho fatto quel trasferimento, quel trasferimento dal basso verso l'alto, sì, godo di una Weltanschauung, ovvero di una visione totale del globo. La Weltanschauung è meravigliosa, la Weltanschauung della signora Paradiso. Guardi, Maurizio è veramente è un intellettuale a tutto tondo della posta. Signor Paradiso, perché non mi chiama Roma a mettermi fuori dalla Camera dei Deputati e dei Ministri insieme a lei a intervistare i politici, che io per lei vengo gratis, non le costo niente. Ma sa tutto, lei lo sa che sta facendo una nuova trasmissione, no, signora Paradiso, signor Paradiso? No, ma io David Parenzo lo amo. Vabbè, adesso professionalmente anche lui, perché è un grande, no, è un grande. Però non è un bel uomo il signor Parenzo. No, nella botte piccola c'è il vino buono, ragazzi. Cioè, a lei piace come tipo il signor Parenzo? Parenzo lo bacerei fino a togliere il fiato. Addirittura. Beh, insomma, non è poi, cioè, sì, è, per carità, può piacere, ma non è proprio un bel ragazzo. Insomma. No, indubbiamente non sono bello, non è la mia dote, ma la bellezza. Davide Parenzo è bello, fuori e bello dentro, a me mi ha sempre lasciato spazio e soprattutto non ha mai avuto paura di me. Sa chi non ha mai avuto paura di me? Chi? La signora Barbara D'Urso. Non ha mai avuto paura di me, il signor Parenzo. Ma è vero che lei doveva andare, scusi, doveva andare in questi giorni da Chiambretti, che è successo? Perché non è andata più da Chiambretti? Ma tesoro, allora io non sopporto i gay presuntuosi. Non ho detto che Chiambretti sia un gay presuntuoso, per l'amor di Dio. Allora io, beh, scusi, gay presuntuoso, che significa gay presuntuoso? Allora, mi perdoni, io vorrei approfittare di voi, della vostra radio importante, per dire: Piero Chiambretti, che fine ha fatto l'abito di Moana che io ti ho dato per fare beneficenza all'ospedale di Venaggio, dottor Mosca, reparto gastroenterologia dove mancano i bisturi elettrici del colon? Punto, domanda. Vabbè, qui adesso è una diatriba tra lei e il signor Chiambretti, vi accusate del possesso dell'abito di Moana, è una cosa seria. Moana l'ha regalato a me, perché Moana era innamorata, come io ero innamorata di lei, perché la baciavo per ore. Perché per me il preliminare più importante è il bacio, e io mi fermo ai preliminari. Entriamo in un altro ambito. Però che fine ha fatto l'abito di Moana che doveva essere dato di licenza all'ospedale? Il giallo, adesso cercheremo di risolvere anche questo giallo nei prossimi giorni, anche per conti su io di noi. Io sono a vostra completa disposizione. Conti su di noi. Il signor Parenzo mi vuole con lui fuori dalla Camera dei Deputati, ci divertiamo alla grande. Sì, lo faremo senz'altro. La prima puntata di Titanic, inviato speciale di 7 gol, sarà Maurizio Paradiso. È una promessa che faccio ai radioascoltatori della Zanzara di Cruciani. Beh, insomma, qui abbiamo, concluso anche rapporti di lavoro. Signora Paradiso, passi una buona serata, anche se so che è infortunata al piede, ma insomma adesso dove va? Come passa la serata? Non mi voglio fare gli affari suoi. Io in questo momento mi trovo a Paderno Dugnano, a casa di un signore che si chiama Rivolti Salvatore, che non è quello che pensate voi, ma è un signore che sta mettendo in piedi una linea di cosmetici e mi vuole come testimonial, e quindi sono qui a mangiare solo con lui. Io spero che dopo la cena non tiri fuori la sua collezione di farfalle. Ah, ho capito, vabbè. Non approfondiamo oltre, Parenzo, mi sembra di capire che non è il caso. Signora Paradiso, buona serata. Io faccio tanti auguri al ministro Paolo Romani. Paolo, ti voglio bene! E con questo direi che Parenzo da domani sarà molto complicato andare in onda. È tutto finito. Paolo, ti voglio bene, è fantastico. Signor Ruggero, intanto è caduto dalla sedia. Dunque, allora, no, Ruggero semplicemente constata il circo barnum della democrazia parlamentare, che schifo che faccia. Infatti, non a caso, ma una questa non è la democrazia parlamentare, mi scusi. No, ma infatti è uguale, praticamente è la stessa baracconata. No, è la dittatura, è la dittatura del conduttore che impone le sue cadenze, infatti, i suoi temi, gli ospiti, tutto. Infatti, la sua dittatura assomiglia moltissimo a una dittatura democratica, che fa ridere in sostanza. Quindi prima questa cosa qua sparisce di mezzo, e meglio è per tutti, anche perché la politica sarebbe una cosa. Ma lei cosa al posto della democrazia cosa vorrebbe come sistema politico, signor Ruggero? Allora, le faccio notare una cosa, che fino al 1789, quando è stata inventata questa boiata della Repubblica Rivoluzionaria Francese. Stiamo parlando del 1789 però, signor Ruggero. Si rende conto appunto che è una data importante. Ecco, mi rendo conto che sono passati diversi decenni. Questo non vuol dire che non siamo... Per carità, però insomma qualche passo in avanti l'avremmo pure fatto dal 1789. Ma ti dà il caso che per 1789 anni prima e anche nei millenni precedenti non c'erano le dittature, c'erano dei regimi di carattere tradizionale, ma non si postulava il principio folle che il potere viene dal popolo, la sovranità popolare. Per carità, una testa, un voto per lei è una cosa orripilante. È una follia, perché secondo lei il 50% più delle persone fa la verità. Cioè lei è arrivato... No, ma la verità è un'altra cosa, scusi, ma secondo lei come si dovrebbe eleggere un capo, un presidente del consiglio? Le fa confusione fra l'elezione, che si può fare lo stesso, e il principio della sovranità popolare. Il problema è che il potere scende da Dio, non viene dagli uomini. È una follia. Hai capito, Parenzo? Non abbiamo capito niente. Tant'è vero che nel cortile del Tempio, facciamo un favore a Parenzo allora, la prima volta in cui il popolo ha votato, l'ha subito imbroccata e ha scelto Barabba anziché Gesù Cristo. Vabbè, adesso non addentriamoci in queste cose, però Ruggero, le voglio chiedere al posto della democrazia parlamentare, parliamo concretamente, lei mi parla di potere che discende da Dio, perché al posto della democrazia, ma lo so che era così, al posto della democrazia parlamentare, lei cosa ci metterebbe? Allora, guardi, la Serenissima Repubblica di Venezia era un'oligarchia patrizia, andava benissimo. La monarchia di Francia andava benissimo. Il Sacro Romano Impero andava benissimo. Tutti andavano benissimo, tranne questo porcaio democratico che fa schifo. Ho capito. E prima muore... Cioè, innanzitutto le elezioni aboliamole. Beh, le elezioni così concepite... Le elezioni o ci stanno o non ci stanno, Ruggero. Le elezioni così concepite, cioè fondate sull'aberrante principio della sovranità popolare, cioè del 51%... E invece come dovrebbe essere? Per censo, per censo... Le faccio un esempio. Mi faccio un esempio, se no non capisco. Infatti, me ne sono accorto. Allora, quando c'era il re di Francia, per esempio, non avrebbe mai potuto varare una legge sull'aborto, perché oltre che essere profondamente immorale, non aveva il potere lui di stabilire il diritto di vita e di morte sugli innocenti. Invece il regime democratico, quel 51%, stabilisce che va bene sopprimere... Però mi scusi, il re di Francia, lei vuole una monarchia tradizionalista. Ma la monarchia tradizionale è una monarchia in cui si giurava fedeltà sulle conquiste. No, ma ho capito, lei vuole una monarchia tradizionale in cui tutti i poteri fanno capo al re. Ecco, vedi che non ha capito niente. Ho capito. Parenzo, tu hai capito? Hai capito? Diciamo che è difficile discutere di diritto costituzionale con Maurizio Ruggero. Vabbè, ho il traffico da mandare in onda, torniamo subito. Eccoci qui, Andrea, provincia di Piacenza, buonasera. Buonasera Cruciani e lei e i suoi ospiti. Dica. Dunque, ricollegandomi all'argomento di prima, quello che diceva Margherita Hack, una volta Margherita Hack, qui siamo passati a Lager Act Hack. Margherita Hack. Diciamo che io sono d'accordo con quello che dice la signora Margherita. È una, cioè, poi ho sentito dire che ha la testa tra gli astri, fra le stelle. Sì, era un modo per quello che riguarda il suo lavoro, insomma. Una volta ci veniva detto di ascoltare gli anziani. Ci veniva, adesso insomma vengono un po' derisi perché parlano male di alcune persone, tipo come Berlusconi. Poi anche ricollegandomi a quello che ha detto l'ascoltatore di prima, sì, che vanno sempre con Berlusconi per come parla, per tutto quello che dice, se Berlusconi si rivolgesse agli italiani in un altro modo, penso che nessuno avrebbe da dire nulla. Penso. Sì. Alla normalità di una repubblica come quella precedente. Diciamo che si può criticare Berlusconi quando parla quando racconta la barzelletta, anche in maniera diversa da come ha fatto Lac, parlando di un nanetto che si fa la faccia con i capelli tinti. Insomma, si può criticare Berlusconi anche in modo diverso, poi ognuno ha i suoi modi e siamo qui a parlarne, a discuterne. Irene da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Allora, mi vede che mando giù il boccone, sta mangiando. Cosa sta mangiando, signora? Sto mangiando, veramente sono arrivata alla frutta, al dolce. Al dolce? Al dolce. Ma cosa ha mangiato questa sera? Ma dove sta? A casa? Al ristorante? Dove no, sta? No, io sono al lavoro praticamente, io sono una tassista di Milano. Ah, lei è una tassista, sì. E quindi faccio una breve sosta perché poi devo tirare fino alle 2 e quindi... Sì. Parenzo, i mitici tassisti. Sì, ti conoscono tutti, eh? Signora Irene, c'è una tassista che è molto leghista, è vero? No, io non sono leghista. No, lei, non lei, una famosa tassista, una famosa tassista di Milano. Ah, sì, che... non la conosco, mi piacerebbe conoscerla. Vabbè, comunque. Io sono amica di tutti quelli, qualsiasi colore, cioè non vabbè, ho capito. Vado oltre. No, in realtà io chiamavo per quell'intervento di quella signora, signorina, non so... un po' di tempo fa, circa intorno alle 7, sì, che ho sentito che criticava Berlusconi dicendo che è un parvenu per le sue barzellette che racconta. Ora io molto brevemente, perché io non sono né filo di qui né filo di là, dico solo che io conosco un sacco di barzellette. Mi piacciono tantissimo, sì, le racconto perché sono il medesimo, le so raccontare e le conosco di tutti i tipi, dai liguri agli scozzesi, ai negri, agli ebrei. Sì, la differenza è che lei, Irene, la differenza è che lei non fa il presidente del consiglio, insomma, è un po' diverso, no? No, ma certo, ci mancherebbe. No, però voglio dire, le barzellette sono sempre esistite. No, ma tutte, guardi, le categorie e prendono un po' per il sedere un po' tutti quelli che hanno un piccolo difetto, gli omosessuali, le cose, o quello che è considerato un difetto, ma in realtà secondo me è come quasi esaltare queste persone, cioè gli si accetta poi alla fine. Sì, no, ma ho capito benissimo, adesso la sentiamo anche male perché lei è in mezzo alla strada, non so in che situazione, però io sono in parte d'accordo con lei quando dice non stiamo lì a puntare il dito, in fin dei conti, vabbè, Berlusconi è quello che è, poi soprattutto le barzellette fanno parte un po' della normalità quotidiana, della quotidianità. Dunque lei dice perché bisogna criticare Berlusconi per una cosa di questo tipo, è questo che vuole dire? Ma sono tutti così, cioè questa signora io l'ho chiamato proprio per lei, perché aveva una vocina così suave, sembrava l'Arcangelo Gabriele, ma che si guardassero un po' loro, ma santo cielo. Ho capito, grazie. Luigi da Pordenone, buonasera Luigi. Sì, buonasera dottor Crociani. Sì, mi abbassa la radio per favore? Sì, l'ho abbassata. Grazie. Io la ringrazio intanto perché io faccio l'autotrasportatore. Sì. E la sera quando faccio la pausa dalle 6:30 di sera fino al mattino ascolto sempre lei, mi ci tiene compagnia. Bene, Parenzo, siamo contenti di queste cose. Viva, viva. E viva Luigi. Comunque, io oggi ero dalle parti di Melzo, Melegnano, noi altri ci scandalizziamo tanto perché il dottor Romano frequentava Maurizio a Paradiso. No, veramente non ci scandalizziamo per niente noi, però se lei ci vuole scandalizzare si scandalizzi pure. No, il popolo, diciamo. Ma non si scandalizza nessuno, credo. Lei si scandalizza, Ruggero, di questa cosa qua? Ma la frequ- frequentazione era televisiva, per quel che è stato detto. Per cioè, lavorativa, è... manco lei che è esponente del cattolicesimo tradizionalista. Insomma, ciò che è peccato, ciò che è lecito, quindi certo. Ma il mondo transessuale, lei come lo giudica, signor Ruggero? Malissimo. Malissimo anche in che senso? È una forma mascherata di sodomia. Anche ridaglia questa sodomia. Certo, uno che va col transex è un sodomita mascherato, evidente, insomma. No? È riuscito a capire anche lei, meno male. Lei non ha capito niente. Però voglio dire... Però su questo. Torniamo ai principi che abbiamo enunciato già una volta in questa trasmissione. Lei, nel codice penale... la sodomia, la sodomia certo. Ce la metterebbe naturalmente. Ma non c'è il minimo dubbio. Con che pene? Con che pene, Ruggero? Lo vuole ricordare? Questo uno può decidere tranquillamente. Vabbè, nella sua testa, che c'è? Quale... Ma guarda, anche tradizionalmente, lei sa che addirittura una volta c'era persino il rogo. Era talmente grave il delitto. Però non penso che lei abbia in mente il rogo, no? Ma io, guardi, che io non ci niente. Si può pensare, Parenzo. Di tenaglie a Palenzo, per esempio, li farebbe bene, capirebbe in un attimo, Parenzo, una toccatina di tenaglie, quello che ha capito tutta la vita. Com'è la cosa, la toccatina di tenaglie? Che vuol dire? Una toccatina di tenaglie inquisitoriali. Le toccatine, le toccatine delle tenaglie, non quelle altre sozze che vabbè, ho capito, lei, Luigi, scusi un attimo, Ruggero, pene corporali? Insomma, voglio dire, il rogo non è che sia una pena spirituale. No, vabbè, rogo, addirittura rogo, vabbè, il rogo però è un'esagerazione. Ma invece la transessualità come la punirebbe? Esattamente come la sodomia, come è una forma mascherata di sodomia, non c'è diversità. Anzi, è anche più orrenda per certi versi. Per carità. Perché anche mascherata. C'è anche mascherata, certo. Perché... Torbido, ancora peggiore. Molto torbido. Luigi da Pordenone. Quelli che oggi a Melegnano e a Melzo si fermavano prostitute lungo la strada? Ai clienti cosa farebbe lei, signore? Caro trasportatore di Pordenone che sta a Melzo, che andava a Melzo, se lei avesse ascoltato bene la trasmissione, cosa che invece non ha fatto, nonostante che dica che vi ascolta fino alla mattina, voglio dire che si fa damigiare. Allora? Ecco, se avesse ascoltato bene, anziché dire che si faceva damigiare senza essere vero, avrebbe ascoltato che il sottoscritto ha detto che è favorevole a quelli che sono i bordelli, cioè a dire a luoghi riservati. Sì, però lei su questo mi è in contraddizione, Ruggero. Non può essere tradizionalista e essere favorevole ai bordelli. Mi sembra un'esagerazione. Ma vedi che è una grande contraddizione. Ma devo chiudere. No. Sente la musica, devo chiudere. Come si sta a Piazza di Pietra, Parenzo? Magnificamente. Adesso mi dirigo alla cena di Ago e Filo. Cene politiche. Dai un saluto agli ascoltatori. Dai un saluto. Cari ascoltatori della Zanzara, grazie per averci ascoltato. Nonostante il circo Barbu. Nonostante Maurizio Ruggero, e passate una buona serata, tutti in paradiso! Tutti in paradiso, a domani 18:30. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. La Zanzara.